si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, 18 e 7 minuti, riprendiamo dove avevamo lasciato ieri sera alle 20.30, 800 24 00 24, insieme a Carlo Gabardini. Buonasera, non so mai se devo dire io il nome o se lo devi dire tu il nome, sono lo stagista, quindi giustamente sto imparando. Ricordiamo anche che abbiamo Cristian Goldoni e Riccardo Buceno in redazione, Valeria Bernardi in regia questa sera, la vigilia di Natale, tutti si stanno preparando a cosa? Al cenone? A togliere la macchina dal traffico, direi, si stanno occupando in questo momento, sostanzialmente. A casa tua si festeggia la sera della vigilia o il giorno di Natale? Il giorno di Natale. L'Italia è divisa in due. Tutto il 25, pranzo, colazione a casa, pranzo dall'altra parte di famiglia, cena dall'altra parte ancora della famiglia, quindi insomma. E quindi la sera del 24 è una sera quasi normale. La messa. Io sono giustificato perché sono in radio, quindi. Però dopo ci puoi andare. Non lo so se dopo ce la faccio. Sì, forse è proprio la veglia, ma c'era una messa alle 6 e quindi volevo dire a mia mamma che purtroppo non ce l'ho fatta perché sono qua in radio, ecco, così ne approfitto per giustificarmi. È il momento dei 5 Stelle, l'hanno avuta vinta, visto il governo ha ritirato il decreto Salva Roma, quello dove dentro c'era di tutto, di più. Certo, diciamo perché è la vigilia di Natale anche, no? No, così, no. C'era tutta una serie di regali di Natale che non arriveranno, adesso vediamo con calma. Titoli di Sky TG24. Violenta ondata di maltempo nel nord Europa, vittime in Francia e Gran Bretagna, caos negli aeroporti, nubi verso l'Italia. Prime espulsioni dal CIE di Roma, a Lampedusa si sgombera il CPA, il governo conferma l'annuncio del deputato Sciauchi. La Shalabayeva può lasciare il Kazakistan, decisivo l'intervento italiano. Bonino a Sky, è stata premiata la nostra costanza. Appello di Letta, basta con la politica dell'urlo. Il governo rinuncia al decreto Salva Roma, gli affitti finiranno nel mille proroghe. Adozioni in Congo, soluzione più vicina per le famiglie italiane bloccate. Kinshasa rassicura Roma, riesame in tempi rapidi. Precipita la situazione del Sudan, 45.000 persone rifugiate nelle basi ONU. Stasera la risoluzione del Consiglio di sicurezza. Autobomba contro la polizia in Egitto, 14 morti, sospetti sulla Fratellanza Musulmana, dichiarata organizzazione terroristica. Stasera la prima messa di Natale per Papa Francesco, l'austerity arriva a tavola, meno di 100 euro a famiglia per il cenone. Ora vi avvisiamo, o sistemate queste indecenze e riapprovate la nostra norma, o comprate cotechino e lenticchie perché vi facciamo passare il Capodanno in aula. Il nostro Capodanno, sai l'altri che faranno, sicuro brinderanno e poi s'embriacheranno finché se stancheranno e a casa torneranno gridando a tutto il mondo auguri. Carlo, questa è la mestizia del Capodanno. E siamo un grandissimo accoppiamento musicale, devo la dire. La mestizia del Capodanno immaginato dall'onorevole Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, che dice: se non correggete tutto il casino che avete fatto in tutte le norme, perché ce ne sono parecchie, faremo Capodanno qua tutti in Parlamento. Tutti assieme cantando Califano, direi. Tutti assieme dentro in Parlamento a cantare. Questa immagine catastrofica deve avere colto nel segno, perché pochi minuti fa hanno detto: allora niente, grazie, niente, non basta, facciamo niente. Togliamo tutto, esatto. A Capodanno, ognuno a casa sua, perché non se ne parla proprio. No, il governo, come sentito anche dai titoli di Sky TG24, ma anche da GR24, ha ritirato il Salva Roma, quello dove dentro c'erano 500.000 euro per la torre di Porto Palo di Capopassero, dove c'erano i soldi. 500.000 euro per il comune di Pietralcina, il paese di Padre Pio, la solita legge mancia dove dentro c'è di tutto. Però soprattutto e c'era il Salva dentro, Roma, immagino dentro. Dove dentro c'era e il quindi Salva Roma, quello verrà recuperato. Salvano niente, salvano l'Inter. Allora, speriamo facciano Salva Inter. Può darsi, è messa peggio in campionato, quindi può darsi. Il Salva Roma, c'è una nota poco fa, una mano che sembra ispirata dal Quirinale, governo monarchia napoletano, è vero, perché probabilmente è stato lui, almeno così si legge nei retroscena, a indicare al governo la strada. Uscita da questo pantano, il Salva Roma andrà nel mille proroghe. Adesso è difficile a dirlo così, perché sembra tutta una confusione, in effetti lo è. Le altre cose probabilmente si perderanno, non ci saranno queste cose che c'erano scritte sui giornali. Vediamo, c'è tempo per capire. Certo, sentiamo c'è invece tempo per cambiare tutto, direi. Di nuovo. Sentiamo invece Di Battista, Alessandro Di Battista, che dice: abbiamo smascherato tutte le lobby, gli intrallazzi. Siamo entrati 8 mesi fa come opposizione, abbiamo smascherato gli intrallazzi del governo, dei partiti e delle lobby che ne determinano le scelte. Ora abbiamo acquisito la credibilità per presentarci agli occhi dell'opinione pubblica come forza di governo. Ora forse, però, forza di governo è un po' tanto questo passaggio dell'onorevole Di Battista, però è vero, c'è poco da fare. Un anno fa di questi tempi una legge del genere sarebbe passata e non se ne sarebbe accorto nessuno. Cioè Stella avrebbe fatto gli articoli, Rizzo sul Corriere. Ma 5 Stella, così. Bravo, bravo. Uno Stella non basta, diciamo. Queste sono 5, sono una forza di governo. Che tra l'altro, visto le percentuali che hanno anche preso nelle elezioni, direi che sono assolutamente forza di governo. 25, ci siamo. Esatto. Sentiamo un altro onorevole del Movimento 5 Stelle sulla norma degli affitti d'oro. La verità è che prima i partiti si sono dichiarati favorevoli alla proposta del Movimento 5 Stelle di togliere, cancellare gli affitti d'oro della politica. Poi si sono rimangiati la parola e poi hanno fatto un passo indietro e poi si sono rimangiati la stessa parola. Data. Basta prendere in giro gli italiani. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere l'unica forza politica responsabile in questo paese, l'unica che può governare. Bisogna dire che sugli affitti d'oro, sulle slot, probabilmente anche sul Salva Roma, loro sono stati i primi a dirlo, va detto. E poi il governo ha fatto marcia indietro, quindi sono stati ad ascoltarli. E tutto questo è vissuto anche in una polemica giornalistica con Massimo Gramellini, che 2 sere fa, che tempo che fa, ricordando la retromarcia del governo sulla norma che riguarda proprio le slot machine e i comuni che mettono limiti alle slot machine, attribuiva questo successo a Renzi. E i 5 Stelle poi hanno detto: niente da fare. Sentiamo prima Gramellini e poi la prova della verità. La Camera approva un emendamento folle che toglie i fondi alle regioni e ai comuni che combattono il gioco d'azzardo. Nembo Kid Renzi è subito intervenuto, questa settimana ha fatto tutti questi interventi, sembrava un portiere, no? Parava tutte gli autogol. Ha ordinato ai parlamentari di mettere rimedio alla porcata, come lui ha definito, e l'emendamento è stato cancellato. Gramellini ha detto: Renzi ha ordinato ai parlamentari di fare retromarcia, hanno fatto retromarcia. Però il 18 dicembre, nel silenzio invece di tutti questi parlamentari che poi hanno votato sotto ordine di Renzi, cioè quelli del PD, ma anche quelli del Nuovo Centrodestra, gli unici, quelli del Movimento 5 Stelle, così, con Endrizzi, sentiamolo. Una cosa vergognosa che qualifica un governo e uno Stato come cravattaro, impone dei tagli ai trasferimenti agli enti locali, comuni e regioni che osino emettere regolamenti o leggi che vadano a disturbare il gettito dell'erario. Se sentimo domani direi. Vabbè, domani, no? Abbiamo appena iniziato. Domani che è Natale. Vogliamo sentire anche, oggi si può sentirla, la voce del sindaco di Firenze Teo Renzi, che in conferenza stampa di fine d'anno dice: mi ricandido, e tirandosi dietro probabilmente le critiche di quelli che dicono: beh, doppio incarico. Ah, si ricandida anche il sindaco di Firenze? Sì. Buon anno e poi buon anno, e se violenta. Io mi ricandido a fare il sindaco per 5 anni, punto. Quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni in Italia è difficile da capire. È evidente che si tratta di affermare un modello nuovo di ruolo anche dei sindaci. Stanotte che si fa. 800 24 00 24, il numero per verde per intervenire in diretta. Salutiamo intanto Matteo Salvini, buonasera. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Buonasera. Eurodeputato della Lega Nord, ma soprattutto neo segretario della Lega Nord. Salvini, a proposito della protesta o quantomeno insomma delle dichiarazioni dell'onorevole del PD Ciauchi, che poi tra l'altro sono andate a buon segno anche quelle, perché adesso sono stati trasferiti credo quasi tutti gli immigrati che erano al CIE di Lampedusa. Lei ha detto che lui si dovrebbe vergognare perché gli pagano lo stipendio gli italiani e non gli immigrati. È così? Beh, questo è fin banale da dirlo, sì. Lo stipendio del parlamentare italiano è pagato dai cittadini italiani e non dagli immigrati clandestini. Questo lo può desumere anche mio figlio che ha 10 anni. Mi permetta di dire sul decreto, sì, Salva Roma, che l'opposizione di notte... C'eravate anche voi. In aula... No, l'hanno fatta i parlamentari della Lega. Sì, sì. Quelli del 5 Stelle sono arrivati dopo, tardi, male, ecco, in pochi. Quindi adesso mi permetto di aggiungere che se non ci fosse stata l'opposizione alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 della mattina, senza le telecamere, senza, sì, le interviste dei parlamentari della Lega, quel decreto sarebbe stato approvato. Quindi in particolare, va bene dare i meriti del mondo a Grillo e a Renzi, che portano i regali stanotte al posto di Babbo Natale e Gesù Bambino, però questo decreto porcata, se non ci fosse stata l'opposizione della Lega, sarebbe legge. Diciamo che forse per anche la quantità di parlamentari che c'ha il Movimento 5 Stelle, più di voi senz'altro, di casino ne hanno fatto parecchi anche loro. Però è vero, è ovvio, è vero, bisogna dirlo, c'è la foto per esempio di Buonanno col forcone, perché le vostre critiche soprattutto al Salvaroma, anche nel merito proprio, del Salvaroma, perché voi siete contrari anche a dare quanti milioni di euro per Salvaroma? No, noi siamo contrari ai regali, dava 150 milioni di euro a Roma, però un comune che è riuscito ad accumulare negli anni 16 miliardi di euro di debiti è un insulto all'intelligenza. Cioè i sindaci, tutti di tutti i colori politici che hanno amministrato Roma, dovrebbero essere esiliati all'asinara a pane d'acqua, perché 16 miliardi di euro alla faccia di tutti gli altri comuni italiani, da Bolzano a Lampedusa, sono una vergogna. Quindi è vero che i grillini sono in 100, i leghisti sono in 15, però in questo caso hanno fatto più casino i 15 della Lega che non i 100 grillini. Va bene, però è vero anche che in passato, e voi c'eravate in Parlamento, leggi del genere sono passate, è cambiato il clima, cioè anche con voi al governo non è che non sono mai passate leggi come mille proroghe con dentro fondi, magari non solo ai comuni del sud o del centro, ma anche a quelli del nord. Non me ne è più periodo, ecco. In questo momento ci sono sindaci che non sanno se riaprono gli uffici comunali, gli asili nido, le case di riposo a gennaio. Regalare 150 milioni di euro a Roma e aggiungo altri 110 milioni di euro per i lavoratori socialmente inutili di Napoli e di Palermo sono un insulto non alla Lega, ma sono un insulto a tutti gli altri sindaci d'Italia e a tutti gli altri lavoratori effettivamente utili d'Italia. Allora, con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, la prima domanda a proposito della protesta di Ciauchi, l'onorevole del PD, dentro il CIE di Lampedusa, Salvini ha detto giustamente, è tautologico, lo stipendio glielo pagano gli italiani, però non crede che è un problema anche degli italiani se in un CIE si sta fino a 18 mesi in condizioni come quelle che qualcuno ha fatto vedere, tra l'altro non rivelando niente, credo, di nuovissimo, perché in molti hanno detto si sapeva che si vive così male, cioè 18 mesi di CIE in quelle condizioni non sono un rischio per la nostra sicurezza? Queste persone stanno in una scuola, non voglio dire una scuola del crimine come il carcere, ma quasi, cioè non va bene quella cosa lì, a prescindere, o no? Ma guardi, in Australia ci stanno a tempo indeterminato fino a che dicono come si chiamano, da dove vengono per essere espulsi, quindi in Australia non stanno lì 18 mesi, ma stanno lì 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, fino a quando non gli viene voglia di dire chi sono per essere mandati a casa loro. Quando si tratta di essere cattivi, perché è la vigilia di Natale, stasera andiamo a messa, io ieri sono andato a fare la mia donazione periodica di sangue all'Avis, però qua si tratta di prendere atto del fatto che non possiamo permetterci di offrire casa, lavoro e speranza ad altre decine di migliaia di persone. Poi se uno deve stare nel centro di identificazione 18 mesi, 6 mesi, 3 mesi, l'immigrazione clandestina va contrastata con tutte le energie possibili. Però scusi Salvini, io sono d'accordo sul fatto che non si possa dare un lavoro e una casa a tutti, anche se naturalmente bisogna distinguere le persone che chiedono un diritto d'asilo perché vengono da zone di guerra. Detto questo, però, anche stare in un CIE 18 mesi, e non so esattamente, oggi ci sono diversi articoli che ci ricordano quanto costano, anche quanto costa tenere aperti questi CIE, non è che quello non è un costo, ma guardi, cioè non ha proprio forse senso fare questo tipo di... Ma se c'è una ricetta più intelligente per contrastare l'immigrazione clandestina, non è che come leghista pretenda di avere la verità in tasca, anzi sono disponibile a qualsiasi altra verità. Perché non vanno in Spagna e in Francia? Perché in Spagna hanno il filo spinato e sparano. Io non ritengo che sia civile né sparare né usare il filo spinato, però non è neanche possibile che rispetto all'anno scorso siano più che triplicati gli sbarchi, sono arrivate 42.000 persone, delle quali, stando alle statistiche, meno di un terzo alla fine otterrà lo status di rifugiato. Quindi ci saranno 30.000 persone senza titolo che gireranno campando come si può intuire, e quindi o facciamo i paesi seri, come appunto come la Spagna, come la Francia, come la Svizzera. Ma come si l'Austria fa a fare paesi seri? Questo che tutti si domandano, perché a me sembra sì, che... Si espelle. E come si fa ad espellere? Si accompagnano con gli aerei? Assolutamente. assolutamente come fa tutto il resto del mondo. Come fa tutto il resto del mondo. E aggiungo io, non sì. si va a soccorrere chiunque anche al di fuori delle acque territoriali, perché abbiamo la Marina Militare. A cosa serve la Marina Militare? Se, va in giro per il mondo e mi fa gran piacere, però se non serve a difendere i confini, ma ripeto, nell'interesse anche degli immigrati che sono qua ormai a milioni, sono regolarmente integrati, lavorano, hanno casa, hanno famiglia, e sono i primi ad arrabbiarsi quando vedono arrivare decine di migliaia di persone senza titolo, ma senza speranza. Ripeto, ma fossimo in un momento di crescita economica, sì. uno dice, vabbè, sono fuori legge, però c'è tutto per tutti. Ma ci sono 5 milioni di poveri in Italia, e quindi ma non questi... possiamo più permetterci Lampeduse. Sì. Questi, non so come si dice, espellimenti non si può dire, insomma. Espulsioni, ecco, bravo, non mi veniva il sostantivo. Se io e lei, queste espulsioni, quante andiamo... sono, Salvini? Quante sono? Cioè, perché mi pare di aver dato un'occhiata ai dati. Troppo poche. Quante ogni anno? Guardi, io mi ricordo il Ministero di Maroni, che era arrivato a 10.000 espulsioni. Ma non mi citi sempre il Ministero di Maroni, sono passati alcuni anni. È quello che avevo seguito con particolare interesse e sì. attenzione. Sono drasticamente diminuite negli ultimi 2 anni, anche perché è cambiato l'approccio. Ci sono 2 governi dove c'è il Partito Democratico, il centro-sinistra, che pesa tanto, quindi evidentemente i respingimenti. Cioè sono diminuiti Maroni, i respingimenti con il governo Letta? No, i respingimenti Letta? Non ci sono più. No, gli espingimenti, le espulsioni, non mi cambi le carte in tavola, le espulsioni col governo Letta sono diminuite. Assolutamente, sono drasticamente diminuite. Ma forse perché le espulsioni non sono poi una gran soluzione, o mi sbaglio? E me ne trovate un'altra? No, forse va cercata, nel senso che lei prima diceva è ovvio anche a un bimbo che quello che ha fatto il parlamentare del PD, Ciauchi, sia vergognoso. Io non riesco esattamente a capire perché sia vergognoso, perché io credo che sia un problema nostro questo, no? Gli immigrati stranieri, guardi, cioè proprio nostro, anche di chi perde il lavoro per colpa di uno straniero, però è un problema nostro. Se io e lei, finita la trasmissione, prendiamo la macchina e proviamo a entrare in Svizzera, sì. ci fermano, ci chiedono i documenti, se non abbiamo i documenti, girano la nostra automobile e ci rispediscono indietro. Certo. Così è. Sì. Così è. Sì. Non perché sono cattivi, ma perché fanno rispettare le regole. No, ma quindi, in Svizzera però non è che mi chiudono in un albergo, mi spogliano e mi fanno un trattamento antiscabbia nudo all'aperto a Zurigo. In Svizzera hanno degli ottimi alberghi. Il trattamento antiscabbia vestito lo devono ancora inventare. A Lampedusa fortunatamente ci sono 20 gradi, non siamo... Ma quindi secondo lei quelle immagini del TG2 non erano scandalose? Ma guardi, perché uno può avere tutte le opinioni che vuole. Certo. Scandaloso è far arrivare decine di migliaia di persone che poi arrivano a delinquere. Questo è lo scandalo, punto. Anche perché quella struttura era gestita da una cooperativa, della Lega delle Cooperative, quindi sono democratici di sinistra, quindi non penso che facciano cose scandalose loro. Detto questo, un trattamento antiscabbia vestito... Ma che c'entra? Scusi, non è una questione di farlo vestito, è una questione di farlo nudi all'aria aperta. Se no, di che cosa stiamo parlando? Cioè lei dice, ma in fondo alla fin fine a Lampedusa si va al mare, quindi va bene, ragazzi, farlo all'aria aperta. Questo è... No, il meteo dice nudi che tutti in fila. In questi giorni ci sono 18 gradi, per fortuna dei Lampedusani. Ce n'erano 20 un attimo fa, siamo arrivati a 18. Comunque, insomma, io non avrei piacere a mettermi nudo insieme a tutti, così. Se a voi fa piacere che muoia una civiltà nel nome dell'accoglienza indiscriminata, perché Natale siamo tutti più buoni, è un piacere vostro. Cioè nel senso che muore la nostra civiltà se noi accogliamo gli stranieri? Se noi accogliamo milioni di clandestini muore la civiltà italiana. Vabbè, adesso però io, veda lei adesso però io non vorrei riaprire questo dibattito che va avanti da anni. Ci sono posizioni diverse, se muoiono o muoiono la civiltà non saremo noi a deciderlo adesso. A me interessa però capire alcune periferie di Milano, di Torino, di Brescia, di Napoli o di Roma le conoscono chi ci vive. Io ho parlato oggi con una immigrata regolare peruviana che abita nelle case popolari del quartiere San Siro a Milano e che ne ha le scatole piene degli arabi che occupano tutte le case possibili e immaginabili intorno a lei. Però questo mi sembra anche una guerra fra poveri, cioè prendere uno straniero. Quello che a me mi interessa chiedere a questo punto a Salvini è questo, cioè la Lega che adesso in Parlamento, quanti deputati avete, quanti onorevoli avete? Sono 16. Pochi. Avete preso il 4% alle scorse elezioni. Letta ha detto rivedremo le regole, cambieremo la Bossi-Fini, ha detto Renzi. Mi sembra che non ci sia opposizione. Sono cambiati i tempi e voi con il peso che avete siete gli unici a contrastare questa cosa qua, glielo sto domandando. Quindi ci sarà una deriva da questo punto di vista per voi da contrastare, ma comunque contraria a quello che sostenete voi. o no? Al di là delle percentuali della Lega, io penso che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani pretenda che l'immigrazione sia regolamentata, rifiuti che la cittadinanza venga regalata al di là di quello che la Costituzione già oggi prevede, e rifiuti qualsiasi tipo di indulto o amnistia collegato a questi interventi. Quindi saremo i soli a fare opposizione in Parlamento? Vorrà dire che, come nel decreto Salva Roma, faremo un tale casino, in senso buono, ovviamente, dentro il Parlamento e fuori, che non passeranno questi provvedimenti, perché secondo me cancellare la Bossi-Fini ed estendere la possibilità di immigrare è in controtendenza rispetto a quello che sta facendo tutta Europa, perché tutta Europa sta andando nel senso contrario, anche dove governa la sinistra, perché la Francia, con il ministro degli interni, socialista, quindi non brutto, leghista e cattivo, sta facendo delle politiche di espulsione anche nei confronti di stranieri comunitari, e penso ai Rom, che non hanno precedenti nella storia della Francia. Quindi se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, o siamo noi dei geni, oppure siamo noi fuori luogo. No, la domanda era perché... perché oggettivamente negli ultimi anni la vostra politica è stata, diciamo, avete avuto la forza di dettare l'agenda su questi temi qua, però mi sembra che se avete preso il 4% alle ultime elezioni, o c'era il peso degli scandali, Bossi, tutto quello che volete voi, oppure forse c'è un umore diverso oggi, glielo sto chiedendo, nel paese meno sensibile a questi temi. Ma guardi, molta gente ci ha rimproverato di essere stati troppo morbidi, troppo poco efficaci sia sul fronte delle riforme che anche sul fronte dell'immigrazione. Quindi nonostante questo ci hanno appena 6 mesi fa, anzi a febbraio, votato per governare la Lombardia, governiamo le 3 regioni più importanti del nord, dove governiamo, dove abbiamo i sindaci, i contributi dal nostro punto di vista, dove è possibile, vanno prima ai cittadini italiani e prima a coloro che risiedono più tempo da queste parti. Io non potrà non essere condivisibile, però questa è una precisa scelta politica: prima i residenti, anche nella ricezione dei contributi piuttosto che delle case popolari, è un fatto che secondo me, percentuale sì, percentuale no, noi portiamo avanti fino alla fine. Le faccio sentire un secondo, avrà sentito sicuramente questo Renzi qua a proposito dei mutandoni verdi, poi glielo faccio commentare, sentiamo un attimo. Sa quella storia delle mutande che si è comprato il presidente, le mutande verdi si è comprato. Già che uno si compra le mutande verdi. Vabbè, adesso però se però, no, ma poi se le compra con i soldi dei cittadini. Ma il colore uno fa quello che vuole. Io non so che mutande usa lei, non mi interessa, però le domando. Le sembra normale che uno si compra le mutande verdi con i soldi dei cittadini? È proprio cambiata la generazione del segretario del PD. Vabbè, l'aveva sentito, sì, credo di sì, a che tempo che fa. Beh, è impossibile non sentire Renzi, visto che c'è in televisione dalla mattina alla sera, quindi lo becchi. Ho due riflessioni da fare. Uno, mi sembra che lo stesso Matteo Renzi sia stato condannato dalla Corte dei Conti della Toscana in primo grado per spese improprie. Però nessuno gli fa mai questa domanda, non so perché. Io non l'ho mai intervistato. Però Fazio non gliel'ha fatta, ad esempio. Mi piacerebbe che qualcuno chiedesse conto a Superman Renzi, se è vero o non è vero che è stato condannato a risarcire migliaia di euro in primo grado per spese che non doveva fare da parte della Corte dei Conti della Toscana. Secondo, in Piemonte, per carità, ci sono delle indagini in corso, quindi su mutande, cioccolatini, trick e track, quello che volete voi, quindi se verrà accertata qualche responsabilità siamo i primi a essere inflessibili con i nostri. L'unica certezza di Regione Piemonte è che grazie a Cota e grazie alla Lega il Consiglio regionale costa 10 milioni di euro in meno all'anno, quindi i torinesi, i cuneesi e gli alessandrini che ci stanno ascoltando sappiano che sulle mutande verificheremo tutto il verificabile. Detto questo, con 10 milioni di euro di costi della politica in meno all'anno, stipendi dei consiglieri dimezzati, penso che si comprino alcune tonnellate di mutande da regalare a tutti i piemontesi in giro per il Piemonte. 800 24 00 24, tra un attimo cominciamo a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori. Una appendice di intervista invece con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, abbiamo tenuto appeso, non c'era la borsa perché naturalmente oggi è chiusa, mi sono sbagliato, Salvini. Invece mi interessava Flash, perché questi risparmi in Regione Piemonte, perché lei dice non sono i mutandoni i costi che contano, noi abbiamo fatto risparmiare 10 milioni di euro in Piemonte, dove, come? Per il funzionamento del Consiglio regionale, dimezzando gli stipendi dei consiglieri e degli assessori e dimezzando i contributi ai gruppi consigliari. Quindi perfetto. Il costo è passato da quasi 50 milioni di euro a poco più di 30 milioni di euro. Quindi questi sono risparmi certo. che già da questo Natale vengono riutilizzati per la sanità del Piemonte, ad esempio. Poi, se qualcuno ha comprato le mutande a sproposito, ne risponderanno. Anche questo è chiaro, non va bene. E invece, sulle slot machine, perché potrebbe sembrare una cosa un po' lontana dalle vostre posizioni, voi che si dice siete sempre vicini alla cosiddetta pancia degli italiani, perché proprio da questo vostro osservatorio tipicamente della Lega, con questo radicamento, però su questo tema delle slot machine siete molto critici e i vostri sindaci e amministratori si stanno muovendo? Stanno rovinando migliaia e migliaia di persone, il gioco d'azzardo, i videopoker, le macchinette nelle tabaccherie stanno rovinando migliaia e migliaia di persone. La Regione Lombardia ha appena approvato una legge, che è la prima che vale in tutta la Regione Lombardia, che limita tutte le nuove aperture di sale giochi, non le vuole far aprire vicino alle scuole, vicino agli ospedali, e dà un contributo in termini di sgravio, di far pagare meno tasse a quegli esercizi pubblici, bar o tabacchi che non mettono le macchinette, perché purtroppo tabaccai e bar in un momento di crisi hanno convenienza a dare questa macchinetta perché sono un incasso certo. Sono un incasso certo anche per lo Stato, ma sono un costo sociale elevatissimo perché lo vedo io personalmente, c'è gente che si gioca la pensione con queste fottutissime macchinette, quindi i sindaci e i governatori della Lega stanno cercando di fare l'impossibile per arginare un male sociale, e uno Stato che si regge sul gioco d'azzardo è uno Stato fallito, perché uno Stato che conta sui videopoker per mettere insieme il bilancio è uno Stato che deve cambiare mestiere. Va bene, grazie, auguri anche a Matteo Salvini, buona serata. Grazie, buona serata a voi, un particolare saluto ai genitori separati, visto che per mamma e papà separati divorziati il Natale e le feste complicato. Sono sempre una peripezia, sono sempre un casino fra due, bello, tre, bellissimo saluto, complimenti, bello. E io mi ci ritrovo perché sono figlio di genitori. Perché ho incontrato un amico oggi pomeriggio che domani mattina si presenta alle 6 in macchina sotto casa dell'ex moglie per aspettare che le bimbe si sveglino e poi va dai nonni. Questo, ecco, mi piacerebbe che lo Stato italiano avesse un contributo mensile per quelle mamme e quei papà con dei minori a carico che dopo la separazione e il divorzio non ce la fanno. In piccolo, noi come Regione Lombardia 2 milioni di euro li abbiamo stanziati, abbiamo aiutato circa 800 mamme e papà. Sono pochi. Che ci sono anche dei progetti sulle case per i padri separati. Poi qualcuno dirà che questo incentiva i divorzi, giusto? No, Giovanardi potrebbe dire questo. È sempre quello che va a cercare. Certo. Negativo, però purtroppo ci sono tanti papà che dormono in macchina anche a Natale. Grazie. Gli sono particolarmente vicino. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Allora, facciamo un po' di ascoltatori. Ce la facciamo? Sì, sicuramente sì. Abbiamo Gino che ci chiama da Napoli. Intanto, buonasera. Sì, buonasera. Buongiorno. Prima di tutto, voglio augurarti un sereno Natale. A lei e a tutta la redazione. Grazie. Un sereno e un felice Natale. Benissimo. Poi, non sono per niente d'accordo con tutto quello che ha detto il segretario della Lega. Niente su niente, ha parlato per 20 minuti, neanche una parola? No, sono d'accordo solo sui divorziati, sì. Il fatto delle slot machine, vabbè, quello comunque lui rappresenta un partito che, io a dire la verità, vabbè, nel passato l'ho sempre quando uno parla, dice delle cose al di là di quello che rappresenta, uno sta a sentire anche quello che dice. Ma sono opinioni diverse, però io rispetto la loro opinione. Però il motivo per cui lei ha chiamato, il motivo per cui ho chiamato, e mi riferisco pure agli argomenti di ieri sera, perché non ho potuto prendere la linea perché si è fatto tardi. E niente, si parlava dei rimborsi che hanno i ministri, i senatori, eccetera. No, io faccio 40 km al giorno, 40 andate e 40 a tornare, con un disagio enorme, perché con un tragitto di un treno che parte da Salerno e per arrivare a Napoli porta 90 minuti di ritardo, io faccio ogni giorno, accumulo 2 o 3 ore di ritardo sul lavoro, che poi sono costretto a... Ma qual è la tratta che fa tutti i giorni, scusi? La tratta? La tratta faccio Pompei, Napoli, Napoli, Pompei. Ah, va bene. Allora mi scusi, mi ero distratto. Gino, veniamo al sodo in 30 secondi e poi salutiamo sì, le persone. Sì, no, quindi voglio sì. dire, voglio dire, questo c'è, è un disagio che comunque, perché c'è un discorso troppo lungo da fare. Cioè e allora Italia, lo facciamo un'altra volta, grazie Gino, grazie. Grazie, buona serata, l'ha detto da solo che è un discorso troppo lungo da fare, non è che ci abbiamo tutto il tempo stasera per farlo. Poi l'ha presa troppo alla larga. Marco da Verona, buonasera. Buonasera. Prego. Nel fare gli auguri, buon Natale a tutti quanti, sia a voi sia alle vostre famiglie. Grazie, grazie. Volevo rientrare sul discorso di ieri sera, sul discorso degli immigrati. Primo sì. sentito Salvini, e anche se non sono di vista, sono molto d'accordo. Siamo l'unico paese al mondo che manda i militari invece di proteggere le frontiere dal prendere gli immigrati. Siamo gli unici, non esiste nessuna parte. Beh, non è vero, nel momento che va giù un barcone, se ci sono i militari lo salvano. Non va giù un barcone, ma andiamo alle navi a prendere non un barcone, non esiste nessuna parte del mondo. Per risolvere il problema, facciamo finta, noi in Italia abbiamo sempre, invece di risolvere il problema, trovare le prove per fare il problema, cerchiamo di far finta di niente, come sempre. Come si risolve il problema? Come hanno fatto quei sequestri? Stati duri, lo Stato è stato duro con i sequestri, non ha detto pagate il sequestro. Se noi facciamo arrivare tutti quanti in Italia, mandiamo, anzi, chi viene qua in Italia, nasce qua, diventa italiano, automaticamente la mamma deve stare qua, il papà deve raggiungere. Cioè abbiamo tutte le politiche all'incontrario, purtroppo, e poi gli facciamo fare la fine di Lampedusa, vedere e vivere in quella maniera. Ecco, purtroppo, questo mi sembra però un punto importante, cioè che vivere in quella maniera, l'ha detto in qualche modo anche Salvini, quello non va bene. Dopodiché poi si tratta di capire cosa possiamo, dobbiamo o vogliamo fare. Beh, Salvini Marco. No, ha detto che andava bene, ha detto che fa caldo a Lampedusa. Ha fatto un po' di ironie di quelle, però poi ha detto se trovate voi un'altra soluzione più intelligente, secondo me si troverà un'altra soluzione più intelligente che stare 18 non mesi ho dubbi. In un CIE a marcire e non serve niente a nessuno. Io non mi sento tranquillo se ci sono delle persone che stanno per tutto quel tempo in quelle condizioni, poi escono, vanno in giro e quantomeno sono un po' incattivite. Luca da Milano, buonasera. Buonasera, allora saluti a tutti, auguri a tutti, mi spiace che non ci sia Salvini, ormai è andato e ha salutato. Ma magari richiama. Vabbè, comunque fa niente, per essere parlato con voi. Quello che volevo dire è questo, esula un po' dai vostri argomenti di ultimi giorni, io parlo con amici, con tutti quanti, anche vedendo i forconi in televisione, tutti via dal Parlamento, è uno schifo, una cosa e l'altra, ma la mia domanda è un'altra, possibile che con tutte le persone che sono susseguite al governo in questi anni, tutti abbiano fatto male? A me viene il dubbio che ci sia un'altra motivazione per cui le cose non si riescono a fare. Magari, secondo me sono due o tre, ma quella che volevo porre oggi è l'architettura dello Stato. Non è che abbiamo un'architettura che rende tutto difficile, lungo, complesso, lento, poco efficace, quindi siamo sempre in ritardo come leggi, provvedimenti e un po' forse sì, si chiama democrazia, però un po' è vero. No, vabbè, ha fatto un lungo discorso Luca per dire che abbiamo bisogno di riforme in Italia, questa è la sintesi e lo sappiamo. Ma la Luca. Riforma è che allora oggi che siamo nell'era dei computer, sì, della velocità, sì, purtroppo sì. Bisogna essere veloci anche in altri settori. In tutto, è vero. Va bene, io sono un ingegnere dove vedo che alcuni campi in cui lavoro non sono ancora regolamentati, non esistono ancora. Al Parlamento stiamo discutendo della riforma delle parcelle, ci sono gli appalti pubblici fermi, con la crisi che c'è anche pochi appalti che si potrebbero fare sono fermi perché non si sa come si devono calcolare le parcelle. Cioè, questa insomma, si chiama corruzione, grazie Luca, grazie, buona serata, buona serata. Grazie. E allora, come detto, in compagnia del sindaco di Macherio, Maria Rosa Redaelli, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, lei ha espresso questo desiderio per i suoi concittadini e non solo, cioè di aprire in qualche modo, rendere pubblica qualche giorno all'anno, forse sempre, adesso ci spiegherà come e perché, la Villa Belvedere di Macherio, la villa di Berlusconi, famosa villa di Macherio, che adesso non ci sta nessuno? Allora, vabbè, io ufficialmente non ho notizie in merito, sì. Ho appreso dai giornali, diciamo, questa notizia. Che Veronica ha rinunciato ad abitarci. Esatto, esattamente, ecco, per cui, insomma, un po' alla luce di quest'ultima notizia, ho un po' così lanciato questa sfida, ho detto mi piacerebbe comunque che i miei cittadini potessero un attimo godere della bellezza del parco, no? Almeno in determinate occasioni. Perché è un posto straordinario, bellissimo, è stata ristrutturata. Beh, la villa è circondata da un grande parco veramente, sì. Che già, diciamo, negli anni 80 era un po' meta dei cittadini macchiariesi in alcune occasioni, ecco, per cui prendendo un po' spunto, diciamo, da quella che era la situazione di quegli anni, mi è così venuto auspico che potrebbe verificarsi ancora una cosa del genere, ovviamente. Ma poi non c'era l'albero di Natale, non veniva sempre fatto l'albero di Natale di Berlusconi per tutto il paese? No, non per tutto il paese. La famiglia addobbava un grande albero di Natale all'interno appunto del proprio giardino. E voi lo guardavate da fuori le sbarre, esattamente, diciamo. Esattamente. Ah, no, allora non era esattamente per il paese. No, non era per il paese, era loro. Però ovviamente passando da lì, cioè vedevi questo grande albero gigantesco. Ma è stato fatto quest'anno? Segno di presenza proprio. No, quest'anno non è stato addobbato. Quindi è questo il segnale per cui... È calato il buio, da qui ho detto certo. È calato il buio, no? Proprio perché, cioè, è un segnale anche questo, no? Senta, ma in un paio di dépendance là dentro non ci abitano Barbara ed Eleonora, tra l'altro? Sì, così si dice, sì, si dice. Certamente sì. Però sì. Lei non è, cioè lei dice il palazzo principale, la vera Villa Belvedere, sì, è abbandonata. Ci esatto, sono... no, cioè, è abbandonata, chiusa, insomma, è chiusa. No, sarà chiusa, ma io ecco, mi domando... È una villa storica molto importante, sì. Che era appartenuta ai Visconti di Modone, e molti macchiariesi, insomma, ricordano quando ancora si poteva entrare nella villa, no? Prima che la comprasse Berlusconi? Prima che, però esatto, adesso che è una villa privata, perché un privato dovrebbe aprire casa sua? Cioè, È dura questa cosa, infatti. Un privato a casa sua ovviamente fa come crede, no? Ma poi mi scusi un attimo, sbaglio? Sì. In realtà Berlusconi quando comprò la villa poi la restaurò tutta, cioè era messa malissimo la villa, non è che fosse proprio visitabile? No, era molto, sì, cioè, bisogna anche... la ristrutturata... Certamente aveva bisogno di una grande e importante ristrutturazione, per cui lui ovviamente ha pensato a tutto questo. No, cioè, bisogna dare il merito di questo, nel senso che non è che la villa fosse della città aperta al pubblico, la villa era No, a memoria messa molto male. Quando era di proprietà della provincia e prima quindi che fosse venduta era stato ristrutturato il tetto, ecco, dopodiché sì. Tutto il resto era veramente però io ho letto in uno che... stato pessimo e decadente. Ho letto che lei dice giustamente proprio perché è stata ristrutturata sarebbe bello che i concittadini, i cittadini di Macheri non solo potessero vedere adesso in tutto il suo splendore, però insomma forse ci sarebbe anche la curiosità di andare a vedere la casa di Berlusconi e lei punta anche su questo per incentivare un po' il turismo dalle sue parti? C'è anche questo. Io a me piacerebbe che i cittadini avessero l'occasione e l'opportunità di poter entrare, diciamo, nel giardino, nel parco, insomma, di questa villa. Cioè lei si accontenterebbe anche del giardino, intanto che si potesse vedere il giardino. Io mi accontenterei anche del giardino. Ma forse la dovreste ricomprare. Non è in vendita questa villa? Ma quanto costa? In vendita, ovviamente, cioè non sono tempi migliori per i comuni. No? Accendete un mutuo, un bel mutuo. Un cielo alla Madonna. Un mutuo millenario. Quant'è la valutazione della villa? Sinceramente non so quale possa essere la valutazione della villa, però, a meno che il parco regionale della Valle dell'Ambro faccia la sua parte. No, faccia la sua parte. Cioè, lo compri e faccia una proposta d'acquisto? Potrebbe. Chi è che dovrebbe farlo? Mi scusi, il parco? Il parco della Valle dell'Ambro, perché questa villa è inserita all'interno del parco regionale della Valle dell'Ambro. Però è vero come si scrive, si legge in alcuni articoli, che è stato un po' un flop dal punto di vista immobiliare, l'unico tra l'altro in caso si dovesse segnalare di Berlusconi, perché per quanto è stata l'unico in campo pagata, immobiliare. In capo immobiliare sicuramente, lui è un grandissimo immobiliarista, adesso non raggiunge assolutamente i valori per cui che era stata stimata prima, è vero? Eh sì, però io qua non entro nel merito, voglio dire, io sono sindaco del mio paesello e in merito a questo non entro. Però è vero che non ha pagato invece la tassa sui rifiuti per 2 anni? No, perché? Cioè, non avevo letto questa abbiamo letto qua. Questa notizia, non le risulta? Forse però, aspetta, perché adesso bisogna essere precisi, era relativo all'altra villa, quella poco distante, Villa Germetto, che è in un altro comune però, comune di Lesmo. Villa Germetto non è nel mio comune. Infatti, comune di Lesmo. Comune di però anche Lesmo. Quella è diciamo in disuso, doveva servire per fare forse delle attività politiche, l'università. No, è quella della Tarsu che non è stata pagata. No, a me non risulta proprio, cioè non... Senta, però lei ha avuto una risposta da qualcuno della famiglia Berlusconi, cioè qualcuno che si è fatto vivo per, dopo questa sua... No, assolutamente niente. No, voglio dire, è stata così o... Non l'ha cagata nessuno? No, mi scusi. Un'idea così che è venuta proprio... Però di fatto non... No, a seguito delle, così, di qualche intervista, ecco, per cui... Beh, ma lei si aspetta, voglio dire, ha fatto un appello chiedendo alla famiglia Berlusconi di ridonare la villa... Mi piacerebbe che, ecco, i miei cittadini... Certo. Ecco, potessero, per qualche iniziativa ovviamente. Va bene, insomma, abbiamo capito, però per ora non ha avuto nessuna risposta. Va bene, staremo a vedere. Vabbè, vedremo. Ci faccia sapere, esatto. Vedremo. Auguri anche a lei. Buon Natale. E fate voi l'albero, visto che non l'ha fatto Berlusconi, lo faccia lei in piazza un alberello. Vabbè, certo, già fatto. Ah, va bene. Ottimo. Buon Natale. Grazie. E buona serata ancora. Buona serata e auguri, grazie, arrivederci. Torniamo al numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Maria da Roma. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Buonasera. Sì, senta, io volevo solo chiedere una spiegazione. Il finanziamento pubblico ai partiti viene rinunciato nel 2017, ma quello pubblico viene iniziato nel 2014 sulla dichiarazione dei redditi. Secondo lei è chiaro, questa cosa è giusta, o prendono il finanziamento due volte? Grazie. Grazie Maria. Io non l'ho capito, una bella domanda per la vigilia di Natale, no, ma non l'ho capita. Il problema è che questa abolizione del finanziamento ai partiti avviene da qui al 2017, ha ragione l'ascoltatrice, quindi la cosa non funziona. O quantomeno ci vuole talmente tanto tempo, continueranno a prendere soldi in sostanza in questi anni. Questo è il famoso regime di transizione, che però suona come una beffa per molti. Anna Maria dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Innanzitutto le volevo precisare che l'apprezzo molto per le trasmissioni che fa a mezzogiorno, insomma. Sì. Però quali? Questa sera. Ah già, a proposito, quali? Mezzogiorno quali? Perché adesso abbiamo cambiato orario, si può fare va in onda si la si mattina. Può fare, ecco, sì. Mi riferisco che veramente la trovo intelligente e propositiva. Ma è alle 7:30 però, non è a mezzogiorno. Vabbè, è rimasta no, l'ora. No, vabbè, mi riferivo. Lo sento anche quella, perché la radio, sì. La vostra radio si apre alle 6 di mattino. Vabbè. Quindi con l'inno Italia, sì. E poi l'altro. Però immagino che ci sia un però, cioè apprezzo molto però. Oh, ecco, no, apprezzo molto, però stasera veramente dico basta, Salvini. A parte il fatto che Salvini dice ma Renzi ce lo propinano dappertutto, lui deve stare zitto, perché io me lo sono dovuto assorbire per non so quanto tempo, sempre, da tutte le parti, quindi anche su Radio 24, perché è grande amico del nostro caro Cruciani. Però voglio dire, stasera è la vigilia di Natale, Francesco ci invita, non lo so, non ad essere più buoni, ma a renderci conto che c'è tanta gente che soffre. E questo signore che... Ma io dico, io non li sopporto più, Buonanno, Salvini, ma di che cosa sono fatti? Questa gente che viene qui e poi invade il territorio, ma questi sono dei poveri disgraziati, scusi. Anna Maria, scusi, ma come di che cosa sono fatti? Cioè, voglio dire, non hanno nessuna sensibilità. Ah, umana, dal punto di vista umano. Certo, parlo sempre dal punto di vista umano. Ma davvero, dico, adesso non è che bisogna essere buoni a Natale, perché bisogna sempre essere, diciamo... Bisogna essere buoni anche a Pasqua, anche a febbraio, anche alla primavera. Ha sentito come ha chiuso Salvini, Anna Maria? Anna Maria, scusi un attimo. Scusi un attimo, Anna Maria, mi ascolti un secondo, poi la faccio parlare. Ha sentito però Salvini che ha chiuso l'intervista salutando i padri e le madri separati? Ha avuto un pensiero per questo, è stato buono. I cattolici che parlano di chiesa, ma che, Anna Maria non ascolta, vabbè, Anna Maria buona serata, perché lei parla ma non ascolta, non si può interloquire così, come dobbiamo fare? Anna Maria? Sì, presente. Ha sentito, le ho chiesto questo, ha sentito Salvini, che almeno su questo è stato buono, se non buonista, ha salutato i padri separati? Sì, mi è piaciuto molto, devo dare atto, sì, infatti signore, no, veramente, guardi, ma è anche giusto, probabilmente anche lui un papà separato, non lo so, perché io... Ma parlava di un amico separato. Molto apprezzabile, allora in fondo qualcosa di buono c'era anche lui. Vedi, ecco. Siamo riusciti alla vigilia, diciamo, ad accontentare Anna Maria, fantastico. Diciamo che sono più i separati che votano Lega piuttosto che i marocchini, quindi giustamente lui dice, a me i marocchini non mi interessano, interessano quelli separati. Ma malpensante. Ma no, io le ho fatti i complimenti, mi sembrava un bellissimo progetto. Salutiamo Anna Maria e salutiamo anche Marco invece, che ci chiama da Varese. Buonasera. Buonasera a tutti voi e un augurio di buon Natale. Sì. Niente, io purtroppo volevo dire, adesso ho cominciato a lavorare, per cui ho interrotto. A lavorare, questo è fantastico. No, infatti. No, non ho sentito più il Salvini, sì. Non ho sentito più da 10 minuti il Salvini. Sì. Ma Salvini ha attaccato già da un po' Salvini. L'ultima cosa che ha detto, che forse si è perso se non ha sentito tutta l'intervista a Salvini, è che lui gradirebbe che ci fosse un contributo per le famiglie e i genitori separati, perché hanno enormi disagi, devono subire grossi disagi, soprattutto sotto Natale. Okay. Allora, niente, io volevo soltanto puntualizzare una cosa. Sì. Li sento molto spesso dire cose praticamente uguali al Movimento 5 Stelle, ma proprio identiche. Da chi? Da parte di chi? Della Lega? A parte la secessione, vabbè. Poi un'altra cosa, volevo fare una domanda. Il Movimento 5 Stelle, i ragazzi hanno appena restituito parte dei loro soldi. Cioè, loro concretamente, ma proprio concretamente, hanno restituito i soldi per la piccola e media impresa, per quegli imprenditori che sono in difficoltà. Gli altri partiti cosa fanno? Grazie Marco, l'abbiamo detto, però questo ne abbiamo parlato, non è che non se ne sia parlato, però sono cose di un po' di tempo fa. Grazie, buona serata. Buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ben ritrovati, 19:16 minuti, stiamo insieme fino alle 20:30, 800 24 00 24, in questa vigilia di Natale, dove siete in mezzo al traffico. Forse adesso si comincia mi sa che adesso è proprio traffico, traffico, ultimi regali, disastro, parcheggio in terza fila, gente, le quattro frecce, gente che entra nel negozio e compra la primissima cosa che vede perché è disperata, perché manca il regalo. Infatti mamma, tutti i negozi hanno lì come prime cose le cose più care in assoluto. Esatto. Uno entra e dice, purtroppo si è preso uno Swarovski. C'è solo uno Swarovski. E sono 2000 euro. Va bene, allora riprendiamo con i titoli del TG3. Stop del colle, salta la legge, salva Roma, affitti d'oro nel mille proroghe, Letta basta con la politica dell'urlo, più rispetto dell'avversario. Lavoro, Giovannini contro Renzi, il contratto unico non è la soluzione, i renziani non si crea occupazione per decreto, no a polemiche sugli annunci. Alma Shalabayeva, moglie del dissidente Ablyazov, libera di lasciare il Kazakistan, accolta la richiesta appoggiata da Roma, grazie a Italia. Trasferiti migranti dal centro d'accoglienza di Lampedusa, arrestano sull'isola i testimoni del naufragio del 3 ottobre, ancora proteste al CIE di Roma. L'odissea di 24 famiglie italiane in Congo per le adozioni, Letta telefona al Premier che promette presto il riesame dei casi e la soluzione. Ondata di maltempo sui paesi del nord Europa, vittime in Francia ed Inghilterra, blackout, strade interrotte, centri isolati, decine di voli cancellati. In una grande catena inglese niente più divisioni tra i giocattoli, tra per maschi e femmine, ma la trovata provoca discussioni e polemiche. Ora vi avvisiamo, o sistemate queste indecenze e riapprovate la nostra norma, o comprate cotechino e lenticchie perché vi facciamo passare il Capodanno in aula. Il nostro Capodanno, sai l'altri che faranno, sicuro brinderanno. E questo era l'onorevole Alessandro Di Battista, che ha minacciato tutti i parlamentari di restare in aula finché il governo non correggeva tutte quelle cose che poi sono state, credo, corrette. Beh, minaccia direi andata a buon segno, giusto? Minaccia andata a buon segno. Ha detto, vabbè, allora non facciamo niente, basta che andiamo a casa, facciamo saltare tutto. Tra l'altro, fa anche, avete sentito i titoli del TG3? Letta che dice basta con la politica delle urla. Ma sbaglio o il governo ha corretto tutta una serie di cose perché c'è stata gente che si è messa a urlare? Quindi tu dici meglio la politica delle urla piuttosto che questa sobrietà bellissima, no, che però fa dei regali pazzeschi a dei politici strani. No, ma soprattutto mi sembra incoerente da parte di Letta, che ha fatto retromarcia palesemente, ha parlato di errori, per esempio per la norma sulle slot, ma anche gli affitti d'oro, il Salva Roma. Proprio perché, insomma, in Parlamento c'è stato qualcuno che ha alzato la manina e ha detto no, così non si fa. Ma forse stava indirettamente parlando anche un po' a Renzi, che invece va in televisione a dire facciamo questo, facciamo quest'altro, invece lui è per una roba più sobria. Sentiamo ancora un Di Battista, ce l'abbiamo, sì. Abbiamo smascherato le lobby. Senza il Movimento 5 Stelle non si sarebbe svelata questa ulteriore porcata. Siamo costretti a leggere fino all'ultima riga perché il governo nasconde come le imprese nei contratti, appunto le porcate nei cavilli. E abbiamo dimostrato grande competenza e serietà e il governo davvero è inadeguato perché da un lato tira fuori delle norme e poi le fa rientrare dalla finestra. Mi sembra una descrizione ineccepibile, se non che Letta ha parlato di errori, ma ovviamente non poteva dire ci sono le lobby o ci sono gli intrallazzi. Certo che non poteva, errori, non però, poteva. E fatto, poi i meriti se li stanno prendendo tutti, perché tutti. Renzi in televisione ha detto è merito nostro, subito il 5 Stelle, il Movimento, come abbiamo appena sentito, dice no, i meriti sono nostri. Poi abbiamo sentito Salvini e ha detto scusate, ma il merito è nostro, abbiamo iniziato noi. Sì. Quindi evidentemente non interessava proprio a nessuno questa norma, no, non al PD, non al Movimento 5 Stelle, cioè a chi interessava? Solamente al nuovo centrodestra, è questo? Evidentemente no, è questo un governo che ha molte opposizioni a questo punto, anche dentro di sé, perché Renzi un po' sta dentro e un po' no. Salutiamo il sindaco di Bari, Michele Emiliano, buonasera. Buonasera. Buonasera. Come va? Beh, noi abbastanza bene, lei? Abbiamo appena finito, diciamo, di cominciare a preparare. Che cosa? Gli ingredienti per il cenone. Per il cenone. Ah, beh, una buona notizia. Un minuto dall'inizio. Quindi abbiamo fermato un attimo prima. Ma parliamo di cose private, non di cose pubbliche. Cioè non è che lei stasera ha qualche cena. La vigilia di Natale, parlare di cose pubbliche anche oggi è possibile, però tutti siamo di fronte alla stessa serata. Alla stessa situazione. No, ci chiedevamo se stava preparando un cenone per tutta la città di Bari, questo. Vabbè, non questo. Magari, a volte i sindaci partecipano a degli eventi, che ne so io, anche nella sera di Natale, è possibile. Natale è un evento ancora molto particolare, soprattutto qui a Bari. Senta, intanto noi l'abbiamo così raccontata in questo modo, la paternità di questa retromarcia del governo su varie cose, la norma sugli affitti d'oro, cioè quella che dovrebbe fare in modo che i palazzi della politica, insomma, anche la Camera, il Senato, ma in generale i palazzi dove stanno gli uffici pubblici possano recedere da contratti troppo cari, la norma sulle slot machine, il Salva Roma che era pieno di cose assurde, di chi è la paternità di tutto questo? Perché è vero che il Movimento 5 Stelle è stato tra i primissimi, noi abbiamo sentito Salvini che ha detto siamo stati i primi noi, lei è un sostenitore convinto di Renzi che pure ha dato anche una bella botta. Innanzitutto che questo governo è proprio la sintesi massima di tutte le lobby, diciamo anche tra le peggiori che siano immaginabili. Ovviamente giocano a rimpiattino come normalmente si fa, approfittando delle feste imminenti, della complessità della legge di stabilità, e bisogna controllarli fino all'ultima riga. Ci sono due PD. Il PD della roba vecchia, quella che spero sia stata buttata via l'8 dicembre, e ovviamente il Movimento 5 Stelle sotto questo aspetto svolge un lavoro importantissimo, lo fanno da cittadini, lo fanno anche, diciamo, senza l'esperienza che fosse necessaria per comprendere tutti questi trucchi e trucchetti. Lei immagini che tutti i sindaci del PD vanno in televisione a fare lo spot contro le slot machine, contro le sale, è vero, De Magistris, e poi il governo e i nostri senatori, parliamoci chiaro, anche del PD al Senato piazzano il colpo. Meno male che ce ne siamo accorti tutti ed è successa una mezza rivoluzione. C'era anche molto bello che faccia i complimenti così apertamente al Movimento 5 Stelle, che svolge un lavoro importantissimo. Ma io faccio i complimenti a tutte le persone per bene che si impegnano, che studiano che fanno le cose seriamente. È anche interessante, questo governo è la sintesi massima di tutte le lobby. Ragazzi, mi sono tutti lì. Questa frase qua ce la tagliamo e ce la portiamo avanti per un po'. Perché sono tutti lì, tutti chi? Anche il Presidente della Repubblica qualche volta quando lo dico. Cioè, scusi che non ho capito questa sul Presidente. Spesso faccio arrabbiare anche il Presidente quando lo dico. Ma il Presidente della Repubblica è un po', come dire, il capofila di tutte queste lobby? No, il Presidente della Repubblica sta tentando di tenere in piedi un governo. In realtà, se riflettiamo bene, questo è un governo incollato col Bostic. Adesso bisognerà vedere che cosa riesce a fare. Io spero che faccia due cose: la legge elettorale e la risoluzione del bicameralismo perfetto. È una frase complicata per dire che bisogna togliere dai piedi il Senato così com'è, cioè duplicato della Camera, e sostituirlo con il Senato delle Regioni. Io volevo chiederle, eravamo partiti con un'altra domanda, poi naturalmente abbiamo affrontato questi argomenti, perché stamattina, a un certo punto, a metà mattinata, il ministro Giovannini ha detto, il ministro del welfare Giovannini ha detto, beh, la proposta di Renzi sul lavoro, questo contratto unico senza articolo 18, ma in caso di licenziamento, sussidio di disoccupazione, non va bene, ha detto, sono proposte confuse. Ieri la Fornero ha detto costa troppo, ci vogliono 30 miliardi, la CGIL sappiamo già che è contraria, sono sembrati tre stop pesanti. Ma a me non pare, perché la proposta è sensata, bisogna smetterla con tante tipologie di contratti che è facilissimo prendere in giro la gente. Sono altre porcherie fatte negli anni. La legge Fornero va benissimo sul meccanismo, diciamo così, pensionistico, sugli esodati, è una porcheria senza precedenti della quale dovrebbero vergognarsi tutti coloro che l'hanno votata. Questo è vero. Cioè, è proprio una cosa senza precedenti. Pur di far quadrare il bilancio hanno buttato a mare qualche centinaio di migliaia di italiani. Roba da schettino, insomma, ecco, come schema di logico. E credo quindi che un contratto unico che finalmente fa, come posso dire, consente a qualunque italiano di avere una copertura in caso di disoccupazione senza scegliere alcune categorie privilegiate e molto sindacalizzate, sia un buon inizio. D'altra parte è una cosa molto di sinistra questa. Però è stata votata dal PD la legge Fornero. Vabbè, sì. Da quell'altro PD. Però hai sentito quello che è andato via il PD, quello che ha avuto... Quello della roba vecchia dell'8 dicembre. Bravo, quello lì. Signori miei, lo sappiamo tutti che il PD ha due aspetti. Io ho resistito fino ad oggi sperando in un cambiamento, perché altrimenti sarebbe stato impossibile rimanere dentro il Partito Democratico. L'8 dicembre c'è stato questo cambiamento, adesso sta a noi non farci sfuggire l'occasione di mano, perché se per ipotesi il Partito Democratico di Renzi dovesse assomigliare a quello di prima, sarebbe una catastrofe. Io sono certo invece, da come Matteo si sta comportando, che rispetteremo gli impegni che abbiamo preso con gli italiani e con i militanti del Partito Democratico, perché Renzi lo ha eletto il corpaccione del partito, mica l'hanno eletto il corpaccione. Senta, ma ci vuole il rimpasto a questo punto, come ha detto qualcuno a bassa voce, no. Nardelli o altri? No, io un rimpasto darebbe l'impressione che questo governo deve durare ancora. Devono sbrigarsi a fare la legge elettorale e alla riforma costituzionale del Parlamento. Ma quella non è una riforma gigantesca, quella del Senato delle Regioni? È gigantesca, ci vorrà 7-8 mesi, non lo so quanto ci vuole, io non sono un esperto di lavori parlamentari. Però quando vogliono... Nemmeno io, le confesso. Quando vogliono fanno le cose molto rapidamente. Questo governo non ha la forza politica per prendere decisioni importanti e probabilmente anche impopolari. È un guazzabuglio. Adesso il nuovo centrodestra, che dal mio punto di vista farebbe bene iscriversi al Partito Democratico, perché non ha nessun significato. Addirittura. Un nuovo centrodestra diverso da Berlusconi. Beh, ma come? Avete sempre detto che ci voleva una destra moderata, cioè, europea. Sta dicendo che il nuovo centrodestra dovrebbe entrare nel PD. Io dico che la destra moderata è comunque populista in Italia, è sempre quella di Berlusconi. Alfano, Quagliariello, non so chi altro c'è. Sì. Insomma, quindi lei a Berlusconi, genitori, quelli dei nipoti, e finiscono là. A Berlusconi perché... riconosce questo, cioè di avere ancora, come dire, l'ultima parola nel centrodestra, di essere quello che ha la capacità di rappresentarlo. Il centrodestra italiano. Nessuno dei leader del nuovo centrodestra ha la benché minima capacità di rappresentare, diciamo, quell'umore anche un po' inconfessabile che poi Berlusconi riesce a trasformare in rappresentanza politica e spesso in vittorie elettorali. Esatto, spesso in numeri altissimi. E certo, perché voglio dire, a Berlusconi non so cosa manchi, diciamo, tra le varie nefandezze che si possono commettere in politica, lo dico anche in maniera simpatica, non sto parlando solo di nefandezze. Le nefandezze simpatiche cosa sono? Come? Cosa sono le nefandezze simpatiche? Quelle che lui fa dopo le 21, immagino. Ah, va bene. Le chiamiamo così. È calato il silenzio. No, molto peggiori che sono quando, per esempio, e vada in fisco in maniera fraudolenta. Alcune sono cose personali, non illegali, che va bene quando invece uno commette delle cose illegali. Sono incompatibili con un ruolo pubblico, questo è il punto chiave, almeno certo, nei paesi civili. Ma il vero motivo per cui abbiamo chiamato stasera il sindaco di Bari, Michele Emiliano, è proprio perché da sindaco ha rinnovato la sua dichiarazione di guerra ai botti di fine anno. Ma non è una dichiarazione di guerra, è una dichiarazione di principio. O anzi di pace forse, visto che i botti fanno un clima da guerra normalmente. Beh, io credo che sarebbe bene che ciascuno di noi smettesse di sparare botti, perché è un'attività pericolosa. Peraltro nel giro di pochi minuti, 15 al massimo, vengono esplose tonnellate di esplosivo che inquinano l'aria, spaventano gli animali e qualche volta salta qualche dito e qualche mano e anche qualche occhio. E peraltro in 15 minuti, 20 minuti arrivano al pronto soccorso della città decine e decine di persone che soccorrere tutte insieme non è facile, quindi una scemenza diciamo di notevole proporzione. Ma lei riesce a farla rispettare questa ordinanza? No, allora la rispettano, però, cioè nel senso che i botti negli ultimi 3 anni sono fortemente diminuiti, abbiamo suscitato l'ira della criminalità organizzata in città, che era quella poi che li vendono loro i botti illegali, quelle cose lì. Sì. Infatti loro sparano per sfregio sulle immagini del sindaco qui, perché devo dire che, come forse non è noto a tutti, in questa città prima di fare il sindaco per 10 anni io ero la direzione del settore antimafia, poi ho fatto per 10 anni il sindaco, quindi diciamo con questa gente ho un vecchio rapporto. Un po' di ruggine. No, più che di ruggine, c'è cioè una reciproca simpatia, diciamo, abbiamo la caccia uno con l'altro. Senta, ma è vero che avete vietato anche quest'anno i fuochi d'artificio della categoria 2 e 3, quali sono? Cioè non è tutto vietato, cioè uno può sparare che cosa? Beh, praticamente le stelle filanti e giurilì, insomma, quelle assolutamente inoffensive che non hanno esplosioni. Poca roba. A parte che i botti, a me personalmente un po' di fastidio la sera del 31 me la danno. Ho un ricordo di un concerto in piazza Duomo a Milano dove non si poteva stare perché dovevi scappare dalla paura dei botti. Detto questo, però, cioè bisogna arrivare a vietarli proprio. Non si potrebbe mettere qualche vigile urbano in più che fa qualche multa? O la polizia? Ricordo quella sera a Milano c'era la polizia che stava lì a guardare mentre gente tirava i botti addosso agli altri, e non credo che questo sia legale comunque in Italia, possibile. No, il punto è questo, c'è una tale confusione sulla questione dei botti che queste ordinanze sono indispensabili per dare un orientamento alle persone, cioè qui c'è ancora gente che va con i bambini a comprare questo genere di cose e li educa all'esplosione, come se l'esplosione fosse una cosa positiva, virtuosa. Però è un'usanza antica, mi scusi, nel senso che io personalmente sono anch'io, io semplicemente a me spaventano i botti, non è che mi diano fastidio, però mi spaventano perché c'ho paura, ma è un mio problema. Quello che dico è che è una cosa antica, giusto? Questa però molto pericolosa, come tutti non lo metto in dubbio. Devo dire, è anche molto pericolosa per gli animali domestici. A Bari ci sono circa 30.000 cani e un numero quasi analogo di gatti. Molti di questi proprio in quei minuti rischiano di morire di infarto, di avere traumi e di essere anche pericolosi. Sì, io mi preoccupo di più, diciamo, delle famose mani che saltano, che è quello. Saltano via gli occhi. Esatto, più che gli infarti degli animali, che mi spiace molto. Forse sarà una mia deviazione professionale, però tutto ciò che esplode ricorda bombe, pistole, spari, tant'è che poi c'è qualcuno che è preso dall'entusiasmo, come è noto. Sì. Si mette a sparare anche con le armi da fuoco, approfittando della copertura, no? Approfittando del fatto che è difficile essere individuati durante. Sì, però no, quello che mi chiedo è che però è da sempre che è così, è da sempre che a Capodanno si fa festa facendo rumore. Allora mi chiedo. Secondo me bisogna cambiare opinione. Devo dire che la grande maggioranza dei baresi è d'accordo, perché non ho mai avuto proteste se non dai camorristi, sostanzialmente, che ovviamente perdono un business. Ma i botti sono vietati tutto l'anno, solamente intorno a Capodanno? Solo in quei giorni. Durante le feste di Natale, da Natale a Capodanno. Ma perché a luglio si possono sparare i botti e gli animali possono morire di infarto? Perché la differenza sta in questo, che in queste due date si spara tutti insieme a migliaia. Io non posso vietare tutto l'anno che la legge nazionale rende legale. Certo. No, è chiaro, posso farlo solo per un periodo e per una ragione specifica. La ragione specifica è l'esplosione congiunta di migliaia e migliaia di ordigni dello stesso tipo, e quindi ovviamente per me l'esplosione congiunta è più pericolosa dell'esplosione isolata, come certo. No, ma questo è così veramente, è ovvio. Staremo a vedere, e tra l'altro poi la domanda era quella, cioè riuscite a farla rispettare questa ordinanza? È abbastanza complicata, però io ho verificato, abbiamo ovviamente le pattuglie della Polizia Municipale che cercano di vedere un po' anche come va, che nella sostanza dai condomini il fenomeno è molto scemato, diciamo quasi a zero, rimangono in strada questi gruppi, perché ogni quartiere purtroppo nelle città del sud ha dei suoi, diciamo, gruppi che controllano quel quartiere. Allora, un po' presi dalla rabbia, montano in ogni quartiere delle batterie per strada, e l'anno scorso hanno sparato così, quest'anno è possibile. Cosa rischia? Cioè una sanzione amministrativa, una pena, un arresto? Cosa succede? Ovviamente si tratta di una pena minima, perché ovviamente un sindaco può solo una multa? Fare queste ordinanze, diciamo, sono quasi delle dichiarazioni di principio, non è che... Quindi una multa? Ci vorrebbe una legge nazionale, nazionale, peraltro... Lei la farebbe una legge nazionale ormai su questo? Ormai è matura nella coscienza degli italiani. Lei la farebbe una legge nazionale su questo? Io sì, perché trovo... Anche perché sennò uno va a sparargli a Lecce... Cioè, invece, come? Anche perché sennò uno dice, se a bar è vietato vado a sparargli a Lecce i botti per Capodanno. A parte che potrebbe fare questa scelta, però il punto chiave è che questo tipo di attività è da sempre un'attività che consente molte illegalità. Cioè, durante queste fasi concitate, che ripeto durano 20 minuti, 25 minuti, succede assolutamente di tutto, e l'inquinamento dell'aria, PM10, quello che fa sospendere la circolazione, per essere chiari, arriva a livelli che voi non potete immaginare, e nessuno dice una parola, perché tanto c'è la tradizione, è una tradizione idiota, secondo me, prima la finiamo, meglio è. Se, ma ne posso chiedere un'ultima cosa? Lei ha scritto un tweet bellissimo in risposta a un ragazzo che le chiedeva come mai non avevano chiuso le scuole. Ce lo legge in lingua, perché è veramente stupendo. È scritto... Purtroppo adesso me lo ricordo a memoria, questo è il guaio. Peccato, perché twitta tanto. Volevo fare l'audio tweet, sarebbe stato molto bello. Emiliano twitta tanto, e quindi... Era questa, siccome questo signore, questo ragazzino... Pare che sia un ragazzino. Ho tentato di invitare in comune senza riuscirci, perché non, evidentemente ha ritenuto di non rendersi conoscibile. Mi aveva dato, diciamo, dell'imbecille, la parola era un po' più forte. Sì, è un po' più forte, se vuole la dico io. No, non la dico. No, perché... Che è la vigilia di Natale. Ecco, mi aveva detto una brutta parolaccia, perché io non avevo chiuso le scuole. Devo dire che quel pomeriggio di domenica ero stato messo in croce, innanzitutto a mio figlio, 12enne, poi da mia nipote, che mi aveva detto che laddove fosse accaduta qualche disgrazia a qualche bambino sarebbe stata colpa mia. È stata una mattinata durissima. Le previsioni del tempo che prevedevano sole per il lunedì, e quindi non potevo chiudere le scuole. Certo. A quel punto sua ragazza, il sindaco, è veramente un imbecille. Diciamo, quindi lei che cosa ha detto però? E poi sotto ha scritto, dice, Cus è proprio un tremone, cioè questa era la fase in dialetto del ragazzo. E allora a quel punto io gli ho risposto, un più tremone di tutti sei tu, cioè il più tremone di tutti sei tu, vedi se vai alla scuola, dice va alla scuola, sfalzino significa sfaticato. E metti tu capite, perché domani sta solo, cioè metti il cappello perché domani c'è il sole. Perfetto, l'ha citato perfettamente, sono molto contento, abbiamo l'audio tweet di, va bene. Del sindaco Emiliano, sono molto contento. Grazie, buona serata. Grazie, e auguri. Grazie a voi tutti, volevo fare veramente gli auguri a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, e sperando ovviamente che l'anno che verrà, e il prossimo Natale sia migliore di questo, perché è stata durissima quest'anno. Ci associamo. Grazie, buona serata, auguri. Grazie, auguri. E allora andiamo un po' con gli ascoltatori, e abbiamo Federico che ci chiama da Milano. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Complimenti per la trasmissione, soprattutto perché dopo la zanzara è una delle mie preferite. Oh, benissimo. Grazie. Io vorrei fare una distinzione, analizzare la Lega, il Movimento 5 Stelle, quei partiti che sono, come si può dire, l'espressione dell'insoddisfazione popolare. Sì. Allora, se abbiamo da una parte degli argomenti veramente condivisibili, come la lotta alle slot, io faccio medicina di facoltà e praticamente nel nostro centro psichiatrico abbiamo parecchi slot dipendenti dal gioco, e hanno degli effetti devastanti queste patologie, ma dall'altro abbiamo delle argomentazioni che, se uno le sviluppa a livello intellettivo, è un suicidio. Nel senso, la Lega come quasi anche il 5 Stelle, ma mai chiaramente, vuole uscire dall'euro e in certi punti della Lega anche dall'Unione Europea. Sì. Ma se uno analizza il risultato che potrebbe avere questa cosa sull'economia e sulla vita banale degli italiani, ma ciao che attuale crisi, ma è un suicidio e l'africanizzazione del paese. Vabbè, cioè, lei sta dicendo, la fa un po' lunga per dire che c'è molta propaganda e si usano delle argomentazioni così che sanno di propaganda, sì, insomma, e non sono proposte concrete. La politica però è piena di queste cose, non solo la Lega al 5 Stelle. Il problema è che con la potenza che stanno assumendo in questo periodo c'è il rischio che siano messi con le spalle al muro e debbano realizzarle. Ma sa qual è il rischio più grosso? Io su una cosa sono d'accordo con lei, che l'Italia intera, il paese, i giornali, i telegiornali, siano inchiodati su questi dibattiti che poi non portano a nulla, tipo uscire dall'euro, che è una cosa che lo sappiamo tutti sostanzialmente che non avverrà, non c'è una proposta concreta in questo senso, però se ne parla, si riempiono i giornali e si va avanti. Questo secondo me è un problema e sono d'accordo con lei. Grazie Federico. Andiamo a Marco che ci chiama dalla provincia di Roma. Buonasera. Sono io, buonasera. Buonasera. Salve, posso dire due cose su Salvini? Anche tre, certo. Del partito lì razzista. Volevo dire, dopo l'uscita proprio dell'altro giorno che ha dichiarato di essere razzista, poi ha detto prima noi, quindi dice se vuol dire che sono razzista, io sono razzista, ha detto lui. Ma il problema dei CIE, no? Esempio Australia, stanno tre anni, cioè dobbiamo prendere gli esempi peggiori del mondo per fare peggio, o magari vogliamo insegnare al mondo a fare un po' meglio, non lo so, vabbè. Quindi credo che la posizione di Salvini sono un po' troppi comunque, vero, nei CIE. Sì, condivido che siano troppi, però lui diceva ci sono altri posti tipo l'Australia, che sono ad oltranza finché tu non dici come ti chiami e non esci dal centro di riconoscimento. Dobbiamo essere bravi, insomma, per fare queste cose. Che si può fare meglio, certo. No, si può fare meglio, ma si deve fare meglio se siamo un paese, diciamo, civile, vogliamo considerarci un paese civile, perché 18 mesi dentro un progetto, a parte l'orrore di quelle immagini, vabbè, abbiamo visto delle cose. Quindi? Questo volevo dire sì. Questo e poi anche altre due cose. Vabbè, a parte che io ho una situazione familiare, anch'io, di separato, ma non ho nessun problema perché ho un ottimo rapporto con la mia ex moglie e tutto quanto. Ah, quindi per lei il Natale non è un trauma di nessun tipo? No, assolutamente, mi vedo con tutti, ho figli, sì. Tutto quanto. Però è vero che in generale può non essere facile. Insomma, è stata una cosa che le avevo già sentito dire, tra l'altro, a Salvini questa qua. La Lega ogni tanto c'è. Comunque è arrivato un SMS che dice che Salvini è separato. Allora. È un SMS, quindi non è esattamente New York Times come fonte. Sì, mi dicono di sì in redazione, dove sono ben informati. Marco, a dire ancora qualcosa? Ci salutiamo velocemente. Dico che continua a guardare soltanto dentro il suo giardino, credo che oltre il 3% ma scarso non andrà mai, insomma, questo glielo ho fatto presente anche peggio, sta la canna del gas, insomma, continuerà ad andare avanti sulla canna del gas. Vabbè. Grazie, buona serata. Grazie, arrivederci. Buonasera. Andiamo con Patrizio da Como. Buonasera a tutti e tanti auguri. Grazie tanto. Io invece faccio da contraltare. Non sono un leghista, ma la penso esattamente come Salvini, anche perché le spiego. Forse nessuno dei nostri ministri ha mai fatto il militare, e in militare era normale fare delle docce di questo tipo. E capisco che magari ci sono dei ministri donna, tipo la Boldrini, la Chienge, eccetera. Che non sono ministri, la Boldrini, va bene. Le quali in 8 mesi hanno solo parlato di Rom, immigrati, che non hanno speso una parola per i poveri cristi che si stanno uccidendo. Ma non è vero, Patrizio, non è vero italiana. Che la Boldrini ha parlato solo di Roma. Non veramente è vero. Assurdo. Sì, ma non è vero che la Boldrini ha parlato solo di Roma. Perché devi dire queste cose? Ah no, di che cosa ha parlato la Boldrini? Non lo so, di tante cose. La Boldrini andava in giro addirittura a dare le radio a quei No, però mi interessa il discorso... Per quanto riguarda i famosi immigrati sui barconi. Mi interessa il discorso sul servizio militare. Lei le hanno sparato l'acqua addosso, era nudo. Ma certamente. Ma lei guardi che orrore, ma che anno era? Che anno era? Patrizio, che anno era? Erano gli anni 70. Lei ha fatto 75. Il militare in che anno? 69. Sì, ma sì. Comunque quello che succede nelle caserme non è quello che deve succedere in un CIE dove ci sono bambini, donne. Che cosa c'entrano le caserme? Penso, scusi, che questi signori siano tutti con la spa a casa loro, arrivano addirittura su dei transatlantici. Ma no. O arrivano su dei barconi che poverini non stanno neanche a galla. Ma cioè, che cosa c'entra? Non è che l'accoglienza è in riferimento al mezzo di trasporto che uno usa per arrivare nel paese, però. L'accoglienza è la tipica stupidaggine, mi scusi, di certe gestioni della Lega Coop. Allora, la sindachessa di Lampedusa, che tanto ha fatto pubblicità sinistra, doveva la prima cosa andare a controllare, le dirà che lei non poteva entrare perché c'è la legge Bossi-Salvini, la legge Bossi-Fini, eccetera, eccetera. Quindi, come tale, come al solito, si mette tutto in politica in Italia. Però poi si va a scavare e si vede che effettivamente tutte le cose saltano fuori e siamo autolesionisti, perché in Europa ci prendono per i fondelli per questo. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo. Stessa gente, stesso bar, dice Max Pezzali in questa canzone. E lo sai che siamo collegati col titolare del bar di Pavia, che è proprio il bar di cui si parla in questa canzone, Carlo, lo sai? Sì, che lo so. Certo, tu sai tutto. No, tutto non so veramente niente. È la prima domanda alla quale rispondo sì che lo so. Quindi qualcosina, sei preparato? Giovanni Sacchi, proprietario del bar Mai Pagura di Pavia, ho detto bene? Benissimo. Il bar della canzone era Bar Dante, però abbiamo cambiato. Avete cambiato il nome, ma siete sempre voi, però il bar è quello. Siamo sempre noi, no, il bar è un altro. Ah, va bene. Il bar è stato ceduto, è la sua storia finita. Adesso mi veniva un po' di nostalgia sentendo la canzone. Immagino. È passato qualche anno e... Ma il nome di questo bar è Mai Pagura, però si legge Pagura. Mai Pagura, sì, è dialetto pavese, è un'esortazione a continuare, ecco. A non avere paura. Sì, a non aver paura, era con una sorta di coraggio, vai avanti. E come mai avete dato questo nome? Perché voi siete un po', cioè avete nel DNA, siete predestinati a fare delle cose controcorrente o delle battaglie o non so che cosa, perché voi siete uno di quei bar che hanno rinunciato alle slot machine, è così? Sì, da sempre. Da sempre? Da sempre, anche in anni... Si parla di almeno 20 anni fa, quando iniziavano le prime slot, quando non c'era un controllo da parte, da parte dello Stato, non abbiamo rinunciato, sì, sempre. Vedendo invece piano piano... Com'è? No, dico, vedendo invece piano piano gli altri bar riempirsi, perché è un fenomeno tutto sommato abbastanza recente, cioè qualche videopoker magari girava anche 10 anni fa. Diciamo, però, bassa è recente. Sì. Quanti anni sono che c'è stata questa invasione? Perché... L'invasione si parla di una decina d'anni. Anche poi meno, Pavia, forse. Stranamente, dicono che sia la capitale delle slot. Perché voi avete rinunciato? Non l'avete mai volute? Perché fondamentalmente non mi piace lucrare sulla disperazione della gente, ecco. In un bar si rinuncia, le slot si rinuncia al gioco d'azzardo sotto altre forme, perché esisteva anche il gioco delle carte, sì. Esistevano anche altri metodi, ecco. Ma il gioco delle carte è meglio o peggio del videopoker, secondo te? Penso che sia la stessa cosa. Penso che giocare d'azzardo sia nel DNA delle persone, sì. Di tante persone. E poi quando si arriva in momenti come questi, dove mancano prospettive, manca il lavoro, l'idea della vincita facile è super allettante. Ecco. Quanto guadagna un bar che ha una slot machine? Dipende dal flusso. Si può arrivare a guadagnare sicuramente adesso meno rispetto a qualche anno fa, perché le macchinette devono restituire un tot del giocato e quindi dovrebbero esserci più controlli. Cioè, scusa, le macchinette, una percentuale di ciò che entra in soldi devono assolutamente restituirla in premi a chi le usa. 5%, esatto. Però sì. Forse un po' meno, ecco. Comunque si parla del 75% del restituito, però sì, un bar che c'ha una di queste slot, sì. O anche due, perché io vicino a casa mia c'è un bar, ce ne sono tre, sì, addirittura, no, in un angolino. Quanto può tirar su in un mese con un paio di slot? Guarda, dipende dal flusso di gioco. Ti basta, non so, per dire, ti bastano due giocatori con una buona disponibilità di denaro e ti cambia tutto. Però si può andare dai 2.000, 3.000, 5.000, sì. 7.000. Ecco, capite che non è assolutamente poco, anzi è molto. E che non è neanche facile rinunciare, perché uno dice ce le hanno tutte le macchinette, no, perché certo. Non le devo mettere io? Però se non inizia qualcuno, nessuno le toglie. Ma tu cosa pensi, per esempio, degli altri bar che non hanno fatto la vostra scelta? Cioè dai un giudizio oppure no, c'è no, non indifferenza? Non me la sento di dar giudizi, sì. Anche perché fondamentalmente, secondo me, il ragionamento è questo: io le metto, non costringo nessuno a giocare, cioè sì. Fanno questo ragionamento, si lavano la coscienza, e è comunque un aiuto in tempi di crisi, cioè, sai come si dice, morte tua, vita mia. Però tu questa logica non l'accetti, ed è per questo che non è mai entrata. No, non l'accetto, cerco di... Anzi, il consiglio che do a tutti, anche perché in questi anni sono state liberalizzate le licenze dei bar, mentre una volta erano, come dire, calmierate, no? E c'è stato un aumento di esercizi pubblici e è calata tantissimo la professionalità. Quindi io dico che con la professionalità si può anche in qualche modo resistere alla crisi, sai, altrimenti, cioè, se apri un bar e non... Sì, è chiaro, devi sapere fare il tuo lavoro, devi vendere un buon prodotto, creare tutti gli annessi e connessi. Ecco. Però a me quello che mi preme chiederti, Giovanni, è questo: cosa hai pensato quando sembrava che il governo stesse per inserire questa norma che invece penalizza i comuni che danno una mano ai bar come il tuo, che rinunciando a un grosso introito, però fanno questa scelta, comunque, come la vogliamo chiamare, una scelta etica, una scelta... Etica, sì. Ecco, sì. Ma bisognerebbe vedere innanzitutto, perché, per esempio, faccio una proposta che avevano fatto, penso in Lombardia o penso in tutta Italia, era quella di premiare gli esercizi che decidevano di non mettere le slot machine con uno sgravio fiscale. Sì. Poi quando mi sono informato che invece venivano premiati solo quelli che tolgono, e questo l'ho trovato assolutamente ingiusto, no? Lo so, hai ragione, ma lo sai perché è così? Perché se dovessero dare l'incentivo a tutti costerebbe di più, i comuni non hanno una lira e quindi si riduce sempre la platea di questi possibili incentivi. Certo, però ci sono dei comuni dove ci hanno provato risparmiare sulla TARSU piuttosto che su altre tasse. In effetti sono interventi molto sporadici, piccoli, a volte con platee limitate. Voi magari che siete senza slot da una vita, non l'avete mai avute, non avete neanche la possibilità di entrare nella platea di quelli che la tolgono. Però ecco, poi soprattutto se uno guadagna tanto, l'incentivo gli fa solamente sull'etico. Cioè, quindi l'incentivo dovrebbe essere più consistente, non 100 euro. Assolutamente sì, se la motivazione è quella, assolutamente sì. Sembra, cioè, ti devo dire, poi conoscendo, sai, ci sono le furbate che si possono fare, uno le toglie, se l'incentivo poi e poi le rimette. Vabbè, questo però sarebbe scorretto e sarebbe anche da penalizzare. Scorretto, però. Però che cosa hai pensato, ti ripeto la domanda, perché questo diciamo l'attualità di questi giorni, quando è sembrato, il governo stava facendo questo, in Parlamento è stata approvata una norma che penalizzava i comuni che invece comunque bene o male cercavano di darvi una mano a voi. Ho pensato che andava tutto a rotoli. Sì, è fondamentalmente sbagliato, sicuramente, cioè sono convinto di tutto questo, però penso che lo Stato, il governo voglia aggirare il problema, perché comunque l'introito del gioco d'azzardo è un introito importante. Sì, e sono quasi 9 miliardi di euro l'anno. Siamo sempre nel campo dell'ipocrisia, no? Cioè, io la penso in questo modo, altrimenti avrei fatto altre scelte, no? Certo. Se ho fatto una scelta decisa su di me, è stata una scelta decisa e ho deciso di non guadagnare in nessun modo in questo modo da questa possibilità e l'ho fatto. Ma è una cosa che diciamo si nota entrando nel tuo bar, è una cosa che pubblicizzate, di cui vi fate in qualche modo vanto, oppure è una cosa di sottofondo? No, per noi no, fino a quando poi non è nata un'associazione, a Pavia No Slot, sì, che ha cominciato a portare avanti questa cosa qua, questa idea, sì. No, è sempre stata una cosa così, una nostra scelta e punto e basta. Punto e basta. Sì. Va bene, grazie, auguri, in bocca al lupo. Grazie. Grazie a voi. A Giovanni Sacchi, proprietario del bar Mai Pagura di Pavia, vogliamo risentire 2 secondi delle note di Max Pezzali, così per rientrare nel clima del bar di Pavia. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo. A me è una storia che colpisce questa, perché al di là di come uno la pensi sul fatto se lo Stato debba o non debba regolare, inventare il vizio, il gioco, eccetera, mi colpiscono i bar che fanno questa scelta, perché evidentemente loro che ci stanno a contatto vedono qualcosa che non gli piace per niente. Certo, beh, lui ha detto una frase bellissima, cioè fondamentalmente non mi piace lucrare sulla disperazione della delle persone. Gente. E io ripeto... E questo, cioè, è bello perché, come dici tu, è molto difficile da decidere, perché è un po' come per dire uno che fa il tabaccaio, io non credo che si debba sentire in colpa perché vende le sigarette. Qua però lui dice... limiti che sono stati passati. Sì, non lo so se sia un limite, il problema è che tu vuoi un bar e quindi ti interessa la socializzazione, il fatto che le persone vengano lì, stiano bene, e mal gestisci magari ancora di più se sei in un posto piccolo, perché le conosci queste persone, le persone che vengono nel tuo bar in realtà si rovinano la vita, è difficile, diciamo, da gestire se sei il proprietario del bar. E riprendiamo subito con Anna che ci chiama da Roma. Buonasera Anna. Buonasera a voi. Buonasera. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire pubblicamente alla Lega e al Movimento 5 Stelle che li ringraziamo veramente tanto, e perché? Mi ricordo all'inizio, quando è uscito fuori il Movimento 5 Stelle, tutti bla bla bla, e Cacciari una sera da Santoro disse: bene, saranno 160 persone che gli mettono il bastone fra le ruote. E infatti così è avvenuto. Sta parlando del Salva Roma, immaginiamo. Un po' di tutto, c'è un po' di tutto, gli affitti, l'oro, sì. Chissà le cose che ci avrebbero ammollato se non ci fossero questi. E comunque grazie. Vabbè, mi piace che lei metta sul stesso piano la Lega e il Movimento 5 Stelle per questo, perché siccome c'era un po' di concorrenza, invece lei dice va bene. Grazie a tutti. Grazie anche a lei, Anna. Voleva aggiungere qualcos'altro? Tanti auguri. Auguri. Grazie mille anche a lei. Andiamo ad Angelo che ci chiama da Milano, in attesa tra poco di sentire i titoli del TG1. Angelo. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per avermi richiamato. Ma dunque io volevo approfondire un attimo il discorso esodati e senza lavoro, poi in genere, perché gli esodati è un termine un po' riduttivo. Nella nuova legge di stabilità c'è poco e niente, hanno parlato di 17.000, qui invece stiamo parlando di un fenomeno di 500.000 persone come minimo, e glielo dico perché mi sono interessato a fondo della cosa. 500.000 persone? Con un indotto che arriva a 1,5 milioni, 2 milioni se consideriamo le famiglie coinvolte. E oltretutto, per risparmiare sicuramente 2-3 miliardi all'anno, ma che poi lo Stato non ci guadagna, perché di queste pensioni il 50% gli torna indietro. Non ci sono i consumi. Personalmente io ho dovuto vendere una casa che ci ho messo 20 anni a pagarla e un anno a venderla perché non sapevo come fare. Quindi ho creato un danno pazzesco. E l'altra cosa, non posso aiutare i miei figli che hanno dei lavori precari e le banche non danno non danno prestiti, non danno niente, quindi mio figlio che poteva allargare la sua attività a comprare un furgone non può comprare il furgone perché io non ho un reddito per potergli garantire, se invece avevo la pensione ovviamente l'avrei potuto fare. Quindi, cioè la banca non le presta i soldi per comprare il furgone? No, assolutamente, ma si figura. Che lavoro fa suo figlio? Qual è l'attività che svolge col furgone? Il giardiniere. Il giardiniere. Il giardiniere, sì. Quindi... cioè lei è andato in banca a chiedere i soldi per il furgone, per fare il suo lavoro e non gli hanno dato i soldi? Ma si figuri, hanno detto ma cosa dà in garanzia? Dice io guadagno 700, 800, 1000 euro. Guardi, qualche giorno fa noi ci siamo occupati nella versione del weekend, lì si può fare, sempre a caccia di buone notizie, c'è una piattaforma, si chiama Smartica, la dico così, dove si fanno prestiti tra privati. Può essere una soluzione quando la banca non concede il prestito. Sì, grazie. No. Sì. No, beh, gli ho detto così. Siamo nel Burundi o siamo in Italia? No, non è questione di Burundi. È un'iniziativa lodevole, perché in realtà è buono sia per chi presta, sia per chi... Cioè, a lei interessa risolvere il problema, no? Che suo figlio possa comprare il furgone. Buono sapersi, però il problema principale... Sì. E che quando ha fatto la legge Fornero di economia, questi non capiscono niente. Va bene, queste sono generalizzazioni. Grazie Angelo, buona serata. Giuseppe da Brescia, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti voi. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi seguo sempre. E volevo parlare appunto che il discorso è stato un po' strumentalizzata la cosa da Lampedusa, perché bastava mettere una tendina, perché ormai viene definita come un lager. È ovvio che queste cose non si dovrebbero fare, anche se non quindi si vuole puramente intervenire. Comunque questa strumentalizzazione crea solo il danno, non anche agli immigrati, anche agli italiani, perché io girando l'estero ci vedono come dei delinquenti, invece tante volte i delinquenti, lasciando perdere però scusi, sì, Giuseppe, la strumentalizzazione, mi scusi un attimo, la strumentalizzazione consiste nell'aver mostrato quelle immagini, nel fatto che Ciauchi è andato lì a parlarne, il parlamentare del PD, o consiste in che cosa? O che non c'era una tendina, cioè tutto, risolviamo tutto con una tendina? Sì, no, però allora era giusto al limite fare, però mi sembra troppo esasperata la cosa. Bisognava portarla meglio, il dire signori guardate che sta succedendo queste cose qui, però mi piacerebbe sapere quanti sono stati, tra virgolette, trattati per l'antiscabbia, se erano i due o tre casi, ok, deplorevole. Ma pazienza, non è che possiamo metterci che siccome sono solo due, che cosa dice? Iniziamo a indignarci dopo tre? Facciamo che contano 5. Basta uno, sono direi. Esattamente d'accordo, uno. Però è stata forse troppo strumentalizzata. E beh, spiego anche perché. Qui noi li vediamo nel bresciano, specialmente con certi extracomunitari di origine araba, che io parlo con i poliziotti, con i carabinieri, che una volta si chiamano Mohamed, che poi dalla patente all'altro che è ancora Mohamed, e vanno sempre a delinquere, albanesi, chi più ne ha più ne metta, senza fare un discorso di stato, di nazione. Però una regolamentazione adesso ce la dobbiamo fare. Io ho sempre votato il centrodestra, adesso spero nel San Renzi, non so più a che santo votarmi, oltre che a Papa Francesco non so più cosa votarmi. Qui abbiamo le aziende che ormai stanno andando alla deriva, e nel bresciano voi lo sapete benissimo, è una provincia di trasformazione dei beni. Io faccio l'assicuratore di attività. Sì, ma non stanno andando alla deriva per l'immigrazione, però, perché sennò no, direi che... No, assolutamente. Anzi. No, per questo, però una regolamentazione purtroppo ci vuole, perché guardi che anche qui nelle aziende bresciane certi lavori li fanno solo gli immigrati, e quindi questo è notevole, però hanno una casa, una famiglia, hanno uno stipendio, si comportano bene, però... continuare a fare entrare così senza va bene, un controllo. Ma c'è la Bossi Fini, c'è la regolamentazione. Abbiamo capito, grazie. C'è la regolamentazione, ma cambierà, e lui è preoccupato, è uno di quegli italiani che dicono non bisogna allargare le maglie, però non è che possiamo riaprire tutte le volte questo dibattito, perché ormai lo conosciamo a memoria. Titoli della 7. Napolitano stoppa il decreto salva Roma e il governo lo ritira. In un colloquio con Letta, il capo dello Stato ha espresso le sue critiche sul provvedimento, che in Parlamento è stato appesantito da troppe aggiunte strane e spesso discutibili che lo hanno snaturato. Palazzo Chigi ha quindi deciso di ritirare il decreto su cui aveva posto solo ieri la fiducia. Il ritiro del decreto fa saltare tutte le misure incongrue aggiunte strada facendo. La decisione del governo fa esultare le opposizioni che parlano di esecutivo allo sbando. Ora le questioni davvero urgenti, dai provvedimenti sul bilancio del Comune di Roma alla delicata questione delle disdette dei cosiddetti affitti d'oro dei palazzi istituzionali, saranno inglobate nel decreto mille proroghe che sarà varato venerdì. Berlusconi lavora, dice, al rinnovamento di Forza Italia, ma non intende far fuori il capogruppo alla Camera Brunetto. Lo ha chiarito lo stesso Cavaliere, che conferma comunque l'intenzione di dar spazio a volti nuovi. Si parla di tre vicepresidenti, il commissario europeo Tajani, la Bernini o la Carfagna o la Gelmini, e un giornalista, il direttore del TG4 Toti. Dopo le polemiche, migranti quasi tutti trasferiti dal centro di prima accoglienza di Lampedusa. 169 profughi sono stati destinati ad altre località. Sull'isola restano ancora 17 superstiti dei due terribili naufragi del 3 e dell'11 ottobre. Devono ancora essere sentiti dei magistrati, ma anche la loro situazione sarebbe vicina a una soluzione. Si allarga l'inchiesta giudiziaria sul cosiddetto metodo Stamina. 12 indagati nel filone torinese, una decina in quello bresciano. I magistrati lavorano sia all'ipotesi che la cura possa essere in realtà dannosa, sia sul versante delle irregolarità amministrative e dei costi della sperimentazione nell'ospedale di Brescia. Alma Shalabayeva può lasciare il Kazakistan, dove finora era detenuta agli arresti domiciliari. La moglie del dissidente Mukhtar Ablyazov, che insieme alla figlia era stata espulsa nei mesi scorsi dall'Italia con un'azione improvvisa e improvvida, che aveva avuto risvolti anche politici, ha ringraziato, appena liberata, il ministro degli esteri Bonino, che si è prodigata per questo risultato. Allora, riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori. E chi c'è in attesa già da un po'? Qualche indicazione, ma no, più o meno tutti in attesa allo stesso modo. Marco da Novara, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, chiedo scusa, io volevo solo intervenire, intanto vi ringrazio per avermi richiamato. Intervenivo solo per quanto riguarda il discorso del centro di Lampedusa. Allora, premetto che non sono uno che pensa di non poter dare una mano alle persone o chi è in difficoltà, sì. Però in questo momento, da italiano, vedendo con il lavoro che faccio, le famiglie che incontro, le difficoltà che ci sono, le difficoltà personali, sentire che vengono trattati quando invece gli vengono date le sigarette, giustamente, gli indumenti e quant'altro, mi sembra che ci sia troppa disparità di trattamento. Ma scusi, ma gli vengono girate le sigarette, ma qui siamo partiti da una cosa opposta, cioè da immagini in cui c'era gente denudata a cui sparavano l'acqua addosso per fare i controlli, no, sparavano l'acqua addosso, no, li facevano i controlli antiscabbia, eccetera. Immagini che qualcuno ha detto esprimono la disumanità di trattamento, tempi troppo lunghi nei CIE. Lei mi viene a dire che gli hanno dato le sigarette. Chi è che gli ha dato le sigarette agli immigrati? No, per dire, vengono comunque trattati. Hanno un costo i CIE, hanno un costo, indubbio. Certo, li abbiamo certo. Però creati noi, e abbiamo anche allungato i tempi di permanenza là dentro, per cui... Quello assolutamente, sì. Ma io dico, ma non c'è un modo per poter evitare, diciamo, di farli partire, nel senso, ma non degli accordi internazionali, qualcosa tra stati che possa diciamo, certo, Marco, lo chiediamo tutti, è da anni che se ne parla, però siamo arrivati a questo punto, governi di centrodestra o di centrosinistra, siamo arrivati a questo punto, ed è un punto sul quale mi sembra più o meno tutti d'accordo, forse Salvini no, ma per certi aspetti quasi, ha detto se avete delle idee migliori, ma io credo che ci saranno delle idee migliori, perché allora aumentiamo i tempi da 18 mesi a 36 mesi, teniamola lì tutta la vita e facciamola finita, non credo che quella sia una soluzione, anche se l'Australia dicono che fa così, non sono neanche convinto che sia vero. Grazie Marco, andiamo a Francesco da Arezzo, buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Sì, io mi ricollego all'intervento del sindaco di Macherio sulla villa di Berlusconi. Sì. Ormai è un po' fuori tema ormai. No, volevo darle un suggerimento, perché il codice dei beni culturali prevede l'obbligo di garantire la visitabilità di questi immobili sulla base basi di una convenzione da stipulare tra il proprietario della villa e la soprintendenza per i beni culturali. Ma questi beni lei che cosa intende? Cioè la casa di Berlusconi, Villa Macherio, in che categoria rientra? Patrimonio culturale, storico? Sì, è un immobile storico vincolato, ecco, patrimonio culturale. Sì. E quindi ai sensi dell'articolo 39 del codice dei beni culturali c'è questo obbligo da parte del proprietario di aprire. Cioè, lei praticamente sta facendo lezioni al sindaco di Macherio, sta dicendo quello dovrebbe fare. A parte che credo che mi sembrava più sano semplicemente che il sindaco lo facesse come appello al buon cuore, se mai, di Berlusconi. No, perché l'obbligo devi aprire. No, però se questo ascoltatore ci ricorda che c'è un codice dei beni culturali che lo prevede. Sì, ma qualunque casa che tu abbia, qualunque casa che tu abbia che è di interesse storico, sei obbligato ad aprirla al pubblico. Non lo so, è questo che gli stavo chiedendo, lui che ne sa, Francesco, lei che lavoro fa nella vita? No, io sono un tecnico comunale, quindi so. Però sa di quello di cui parla. Nel tempo libero si diletta di regolamenti di codice di beni culturali. No, però ecco, tra l'altro la soprintendenza comunica all'ufficio tecnico comunale questi orari di apertura, perché quando un immobile storico viene ristrutturato ha dei finanziamenti pubblici. Lo Stato finanzia questi interventi, ma obbliga i proprietari a garantire la visitabilità. Adesso però noi dovremmo sapere se Berlusconi in realtà ha preso dei contributi pubblici o se in realtà ci ha messo tutto il grano lui. Secondo me no, erano altri tempi, No, ma il codice dei beni culturali sì, è del 2001, ma non è vecchissimo. Inoltre, avrà almeno scaricato come ristrutturazione, voglio sperare per lui, perché sì, penso che siano milioni di euro. Comunque anche oggi viene pagata la metà dell'IMU, perché l'immobile storico ha questa agevolazione. Ecco, questa agevolazione come controparte ha l'obbligo di garantire la visitabilità. Insomma, va bene, però bisognerebbe sapere, grazie Francesco, se effettivamente Villa Belvedere a Macherio rientra in questa cosa che dice lei. Sarebbe bello, uno decide come orario, direi il giorno di Natale a questo punto. Direi che domani la Villa di Macherio sarà aperta per ordinanza comunale. Per ordinanza di Francesco D'Arezzo. Francesco D'Arezzo, che sembra un personaggio mitico. Oh, adesso vi vogliamo raccontare un'altra storia che viene da Napoli. Ce ne eravamo occupati, si può fare, tempo fa, perché era chiuso, era fallito sostanzialmente nella gestione pubblica il parco di Napoli e Edenlandia, lo zoo annesso e connesso, dove sono rimasti credo ancora degli animali. C'è stata una mobilitazione cittadina di una rete, la Napoli che vogliamo, che ha cercato di trovare soluzioni per questa cosa. Una soluzione pare che sia stata trovata. Noi siamo in contatto, lo abbiamo convocato qua questa sera, con un imprenditore che ha rilevato e sta riaprendo tutto ciò. Francesco Floro Flores, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera. Allora, io ho ricordato, sono due gli aspetti, lo zoo e il parco. Lei di che cosa si sta occupando per il momento? Noi abbiamo acquisito lo zoo di Napoli, quindi il giardino zoologico dello zoo di Napoli. Però lì vicino c'è anche il parco, c'è anche Edenlandia, che speriamo che trovi una collocazione, diciamo, nel prossimo periodo. Sì. Attualmente si sta definendo un'eventuale opportunità. Però è vero che c'è stata, diciamo, una ricerca, un po' una mobilitazione delle risorse, delle energie della città per, come dire, voltare pagina rispetto a quello che è un fallimento della gestione pubblica, perché questo, no? La verità è che chiaramente lo zoo di Napoli è un luogo di grande interesse e molto amato dai napoletani, sì. Quindi di fronte alla chiusura eventuale dello zoo, sì, certamente tutta la popolazione napoletana si è mobilitata. La gestione precedente non era pubblica, era comunque privata, ecco, ma che chiaramente doveva fare i conti su un fitto di suolo che è invece pubblico, sì, in particolare di proprietà della Mostra d'Oltremare. Però le attività, diciamo, dello zoo sono andate restringendosi proprio per l'incapacità di gestire e di rilanciare questo progetto. Lei invece ha in testa di fare che cosa? Diciamo che noi riteniamo lo zoo di Napoli una grandissima opportunità, come tutto quello che è a Napoli di grandissima bellezza, ha una grande storicità. Lo zoo di Napoli è uno dei più antichi d'Europa, ha un sito archeologico e architettonico di grande bellezza ed è un orto botanico di grande valore. In più ci sono gli animali, quindi è il luogo ideale perché i napoletani possano avere, diciamo, un sito dove trascorrere una giornata in serenità. Noi riteniamo di rilanciarlo e di farlo diventare uno dei migliori zoo d'Europa, questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Ma funzionano, scusi, è una domanda un po' forse ignorante, ma funzionano ancora gli zoo? Perché avevo la sensazione che ormai con tutti i movimenti animalisti, che non si volevano gli animali nelle gabbie, che quindi che non ci fosse del reale interesse nei confronti degli zoo, però probabilmente mi sbaglio. Noi siamo d'accordo con molte delle emozioni degli animalisti, in effetti stiamo cercando di togliere tutto il ferro e tutte le gabbie che sono all'interno dell'orto. Però gli animali non sarà uno zoo vegetariano, diciamo, suppongo. Non sarà uno zoo vegetariano, ci saranno animali, ma chiaramente intorno al lago avremo, diciamo, anatidi e volatili che sono in piena quasi totale libertà. Avremo un'area savana molto aperta, diversa da come era prima. Ah, quindi un'altra idea di zoo. Un'altra idea di zoo, aggiunta alla quale chiaramente permane il vecchio zoo, in quanto oggi gli zoo spesso sono ricovero di animali sequestrati, sì. E quindi in effetti questi animali trovano lo spazio giusto e, diciamo, la giusta cura, purtroppo, nello zoo. Anche per le tigri, che sono animali sequestrati molti in Campania, noi cercheremo di dare degli spazi dignitosi, e quindi i 2-3 mila metri quadri che servono per avere gli animali in una condizione perché io vengo da Milano, dove a Milano lo zoo da parecchi anni è stato chiuso, però tuttora ai giardini pubblici si vede, c'è la gabbia del leone, che io mi ricordo quando c'era dentro il leone perché andavo a vederlo, però c'è anche tutto, appunto, quella misto di tristezza, di pensiero che gli animali soffrano. Quindi quello che lei ci sta dicendo è che in realtà il vostro zoo sarà diverso, gli animali saranno, diciamo, tra virgolette, più liberi. Uno zoo di nuova generazione. Assolutamente, uno zoo di nuova generazione dove la prima attenzione è alla salute e alla dignità degli animali, e in secondo luogo chiaramente consentire anche ad un bambino di prendere contatto con animali. Ecco, tra l'altro questa cosa è interessante, prego. Mi scusi, perché io parlando di questa vicenda ero venuto a conoscenza del fatto che Napoli è la città italiana dove ci sono più bambini, cioè c'è la percentuale più alta di bambini in termini di età. Ma io sono stato bambino e quindi ho amato lo zoo di Napoli, poi da padre, quindi lo zoo di Napoli è molto molto molto, diciamo, di grande interesse per i napoletani, e noi stiamo vertendo tutta la nostra strategia proprio sul fatto che i bambini possano vivere serenamente una giornata all'aperto. Abbiamo fatto dei parchi giochi molto belli e quindi c'è un mix di benessere, di sensazione di naturalezza, naturalistica, dove la gabbia non vuole esserci più, ma al contrario, eccolo, siamo noi che siamo visti dagli animali, in certo senso. Quindi molto bello. Senta, l'altra cosa che era interessante di questa, diciamo, rinascita un po' di questo polo napoletano era la partecipazione. Si era parlato dei cittadini, si era parlato all'inizio anche di un possibile azionariato popolare, che era una cosa che sembrava un po' buttata lì, però che aveva un suo perché, cioè queste associazioni che si sono mobilitate, tra cui la Napoli che vogliamo, che avevano proprio fatto inizialmente una petizione chiedendo fondi quantomeno per tamponare un po' la situazione. Questo aspetto, diciamo, della vicenda esiste ancora, oppure lei fa da sé come imprenditore? Noi siamo intervenuti da soli e esclusivamente da privati, quindi abbiamo rilevato dalla curatela lo zoo e lo stiamo riportando, diciamo, a valore di dignità prima di tutto. Ma la parte, diciamo, di supporto popolare è stata fondamentale nella prima fase per far sì che lo zoo non chiudesse, quindi sicuramente è stata determinante la presenza di una parte della città che si è veramente dato da fare moltissimo affinché lo zoo rimanesse aperto. Immagino poi anche che per il futuro dello zoo avere delle relazioni con queste associazioni, con i gruppi delle famiglie, genitori, che ne so, per creare proprio queste attività e sostenerle possa essere anche per evitare, ecco, che si torni al fallimento, insomma, e alle gestioni precedenti che erano finite male. Sarà fondamentale, penso, che la città partecipi. Io dico che lo zoo di Napoli rimane comunque dei napoletani. Noi facciamo dei grossi investimenti, ma sul patrimonio pubblico, quindi la vera difficoltà per un imprenditore privato è che, nonostante faccia investimento con soldi propri, poi li investe su quello che è un patrimonio pubblico, e qui c'è anche chiaramente l'entusiasmo e l'amore nostro per la città e per un luogo veramente di grande interesse. Poi immagino anche posti di lavoro, insomma, quindi è una... Noi abbiamo assunto già i 15 dipendenti precedenti, più ne abbiamo aggiunti una decina, quindi siamo quasi a 25 posti, ma la cosa interessante è che abbiamo appaltato per 1,5 milioni di lavori a ditte napoletane di piccole dimensioni, quindi c'è un grande movimento anche di opportunità collaterali che sono sempre sottovalutate quando si fanno investimenti in questo genere. No, anzi, l'interesse è anche quello. È un aspetto di grande importanza, quindi la manutenzione anche di siti del genere prevede comunque un mantenimento e quindi un investimento su risorse locali, che è un altro fatto molto importante. Ed è per questo che questa rinascita è sicuramente una buona notizia, grazie all'imprenditore Francesco Floro Flores. Vi ringrazio, buona serata e grazie della telefonata. In bocca al lupo per questo progetto, oltre che buon Natale. Ormai veramente mancano 5 minuti al cenone di Natale. Perché inizia alle 8.25? Inizia alle 8.30, non so, a che ora inizia? No, alle 27.31? E non lo so, il mio non inizia, quindi... Ma ecco il mio è domani, quindi figurati, sono qui. Va bene, Stefano da Pisa, abbiamo ancora alcuni minuti. Buonasera. La città di Letta. Vorrei commentare brevemente la scusa insopportabile che ogni tanto tirano fuori, Letta compreso, del buon padre di famiglia. Anche Letta ha detto nella conferenza stampa, non si può fare di più, perché il buon padre di famiglia deve tenere a posto i conti. Dunque, mio nonno è stato un buon padre di famiglia, ha insegnato a mio padre a essere un buon padre di famiglia e lui ha insegnato a me a essere un buon padre di famiglia. In casa mia abbiamo sempre potuto più o meno affrontare le spese importanti perché abbiamo risparmiato sulle spese inutili. Abbiamo cercato di non disperdere i soldi nelle cose inutili o troppo voluttuarie. Certo, quindi lei dice la politica col padre di famiglia non c'entra nulla. Prego? No, dico, quindi lei dice la politica con il buon padre di famiglia non c'entra nulla. Il buon padre di famiglia è quello che evita gli assalti alla diligenza, che evita i decreti Salvaroma, che evita di disperdere i soldi in mille rivoli, va bene? Sì. E con quei soldi cerca di affrontare le spese importanti. Ora naturalmente dicono ma cosa vuoi, sono influenti, le spese importanti ben altro, perché noi viviamo nel paese di ben altro, ma almeno fatemi vedere che fate lo sforzo, e invece non cambia mai niente. Bisogna dire che Letta ha dovuto incassare una serie di retromarce, ha parlato di errori. Male, ha visto come ha fatto una bella figura. Il decreto per il finanziamento pubblico diretto, cioè, che intendiamoci Stefano, indiretto, Stefano, mi scusi, Renzi stava arrivando, mi scusi un attimo, Stefano, si calmi Stefano, fa chissà cosa combina, Stefano, capito? Si calmi un attimo, questo è Renzi, vabbè. È democristiano. Buona serata, scherzo. Stefano, glielo dico dopo, buttiamo giù la telefonata perché non si può parlare. Bisogna anche dare atto a Letta però di avere cambiato posizione, di essere tornato indietro, di avere modificato queste norme, di avere diminuito l'assalto alla diligenza, mettetela come volete. Certo, non è probabilmente merito suo e della maggioranza che lo sostiene, ma è merito di chi stava fuori e ha urlato la Lega, i 5 Stelle, forse anche Renzi, però poi questo retromarcia c'è stato, forse... perché in altri casi magari si sarebbero trincerati dietro altre posizioni e non sarebbe cambiato nulla. Qui ha ammesso l'errore, questo è già qualche cosa. Ma forse questa storia del buon padre di famiglia, non so, a casa mia che risparmia è mia mamma, forse è giunto il momento per avere un premier donna, e ci vuole la buona madre di famiglia per portare avanti questo paese. Daniele da Roma, buonasera. Pronto, buonasera, ho sentito un attimo fa proprio la discussione dell'altro ascoltatore. In realtà io volevo ringraziare pubblicamente la Merkel, che, appunto, che se ne dica, dice che è molto aggressiva e cose del genere. Sì, chi l'ha detto? È vero, lei sta facendo gli interessi della Germania e involontariamente sta facendo anche i nostri, perché se non fosse stata così ferrea nel richiedere, diciamo, il rientro del denaro, i nostri politici avrebbero trovato l'occasione per continuare a fregarsi i soldi. Invece è così, la cinghia, a forza di farla tirare a noi, e mi dispiace per tutti quelli che la tirano veramente tanto, ha tirato fuori quel senso di furto perenne che continuamente questi perpetrano. Ora, retromarcia, non retromarcia, non ce ne frega niente. Se tu mi freghi il portafoglio, io ti prendo per l'orecchio e tu mi dici perbacco mi sono sbagliato, sei sempre un ladro. Grazie. Punto. Grazie, buona serata, dobbiamo fermarci qua. Grazie mille. Allora è il momento di fare gli auguri, quelli veri. Buon Natale a tutti, è la vigilia di Natale, siamo molto contenti. Davvero. Giusto, così. No, domani ci sarà una puntata però registrata, chiaramente, quindi ci salutiamo qua, ci risentiamo poi venerdì. Già vengo qua il sabato e la domenica mattina, se arrivo anche il giorno di Natale mia mamma mi ammazzava, anzi ammazzava te, Alessio. Troppo. Allora, grazie anche a Riccardo Buccero, Cristian Goldoni, Valeria Bernardi in regia. Andrea Piana da casa. E noi ci sentiamo venerdì dalle 18 alle 20:30. Buon Natale con una puntata registrata da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizi. Ciao, ciao a tutti.